Poi adesso sarà ripetuto anche in tedesco. Vi devo comunicare delle variazioni di programma. Ci auguriamo non quanto alla Wagner. nella discussione all'importanza delle naziones. Abbiamo anche sentito lì il fascino di Bologna verso le naziones. Le sentiamo qui adesso in una visione più vicina, più concreta nella vita dell'università. La parola al professor Collina. Cercherò di essere estremamente chiaro e lento, che oltretutto è vantaggioso anche per il pensiero di chi parla, vero? Cioè questo serve a mettere a posto parola per parola. Non sento ovviamente aver espresso una qualche imbarazzo per dover essere io a sostituire e con una comunicazione a carattere particolare la indicazione, la lezione, le osservazioni di sapore generale che erano proprie del, e che saranno proprie del professor Arnaldi. Devo peraltro dire che pur se di argomento particolare, questo mio intervento cercherà di assumere dei connotati di significato generale, ossia, pur muovendo da argomentazioni di tipo particolari, cercherò di cogliere dei valori generali per la esperienza universitaria del tardo Medioevo. Naturalmente vi farò grazie. Così, insomma, non vi starò a tediare con i problemi dell'origine delle naziones, non senza tuttavia aver dato due precisazioni sulla scia delle indicazioni già venute fuori stamattina in quella che è stata certamente una ricca discussione. Prima di tutto, il centro universitario di Bologna, parlo di Bologna, mi limito dunque al mio paese, perché io stesso sono bolognese di nascita, voglio dire di formazione, l'esperienza bolognese nasce sostanzialmente da una invenzione scientifica, da una straordinaria invenzione scientifica, cioè dall'idea che tutto il complesso dei diritti popolari vigenti nell'Europa romano-germanica dell'undecimo secolo, quindi il diritto longobardo, quindi il diritto franco, quindi il diritto romano nella sua forma popolare, tutti questi diritti potessero e dovessero essere sostituiti dall'uso generalizzato del diritto romano giustiniano. Questa è una invenzione, questa è una scoperta. Questa è una, diciamo pure con qualche enfasi, una straordinaria novità. Fin allora, voi sapete, è ben noto, in base al principio della personalità del diritto, ogni popolo si regolava appunto col proprio diritto. I Longobardi con il loro, i Franchi con i loro, i Bavari con loro, gli Svevi con loro. L'idea della scuola bolognese è invece esattamente antitetica. Il diritto romano nella sua forma giustinianea è valida per tutto il mondo. Quindi non solo per l'Italia che ha un preciso fondo germanico, ma per tutta l'Europa. Aggiungo un'osservazione, dato che siamo in un seminario italo-germanico, ovvia, ma qui mi viene concia fare, la faccio volentieri, e cioè che questa scoperta che il diritto romano debba essere proponibile a tutti e unificante tutti, questa scoperta viene, per quanto intendiamo, non solo da gruppi di derivazione romana, ma prevalentemente da gruppi di derivazione germanica, perché il fondatore della scuola di Bologna è Irnerio, ossia Girnerius, ossia, per quanto possiamo arguire, un bolognese di origine longobarda. Si potrebbe dire che c'è una idea germanica, cioè elaborata da una persona di stampo germanico. L'altra osservazione ovvia è stata fatta stamattina ed è quella che a Bologna l'università è una proposta fatta da un gruppo di docenti, i quali hanno da insegnare una cosa nuova, cioè il diritto romano nella sua forma dotta, Giustiniane. Ma questa proposta viene poi fatta propria ed organizzata, e per quanto riguarda il diritto, istituzionalizzata dagli studenti. Quindi l'università è un fatto degli studenti e non un fatto dei docenti. I docenti hanno una proposta culturale, gli studenti si organizzano per gestirla. Il rapporto docenti-studenti, che è un rapporto dialettico, è quello che organizza appunto e caratterizza il dato bolognese. Il fatto che noi qui, anche qui, dappertutto, sempre, parliamo oramai di università e non più di studio, accennavo stamattina, dimostra come l'iniziativa studentesca sia stata, diciamo, vincente, cioè come l'idea dello studio sia anche stata ormai legata ad una precisa organizzazione degli studenti. Questa organizzazione degli studenti, su questa organizzazione degli studenti si è molto discusso a Bologna. Si insegna che a Parigi lo studium nasce come organizzazione dei docenti. Qui ci sono molte persone che sanno molte cose più di me di Parigi. A Bologna si insegna che l'insegnamento, lo studio, nasce sulla base di un rapporto di societas, di associazione, fra studenti e docenti. Lo studio nasce, dunque, come una proposta di una materia da studiare. Questa proposta, questa materia è il diritto romano. Ben presto però, ed ecco il punto, cominciamo a entrare, spero rapidamente, in argomento. È troppo in fretta, professore? È troppo in fretta? Ditemelo, perché non... Ecco, cerchiamo di essere molto... Non è che sono... Queste cose sono cose abbastanza generali, queste, quindi... E voglio dire, ecco, a Bologna noi abbiamo questo dato, secondo gli studi, da ultimo di un studioso che non sarà mai abbastanza ricordato, il Cencetti, noi abbiamo la formazione originaria di societates, no? Cioè di una sorta di associazione tra il docente e gli allievi. Un contratto di prestazione d'opera che si chiama societas, ed è difficile definire perché si chiama societas, o perlomeno questo pone dei grossi problemi giuridici, per cui un docente si associa degli studenti e tutti insieme lavorano per un anno su un argomento che è appunto una parte del diritto romano giustiniano. Questo dato è contraddittorio rispetto a quello che succede subito o abbastanza presto. Perché? Mentre lo studio nasce, anche questa è una concezione ovvia, lo sapete benissimo, lo studio nasce o comincia con una sorta di rapporto fra il docente e il discente, tra il magister e l'allievo, ben presto noi vediamo gli allievi, gli studenti, che si organizzano in universitates senza e contro i maestri. Ossia, l'università degli studenti, come è notissimo, esclude i maestri, si contrappone ai maestri. Quindi è evidente che c'è stato un rapporto polemico, direi, tra i maestri e gli allievi, che ha rotto il vecchio rapporto e ne ha creato uno nuovo, che è il rapporto nuovo vincente della universitas. Questa universitas è poi organizzata, come pure sapete, in naziones, ossia in gruppi nazionali. Si potrebbe dire, ancora con una osservazione abbastanza ovvia, che non essendoci università nazionali, le nazioni, i gruppi etnici, potevano costituirsi, andare dove volevano. Dappertutto si usava il latino, dappertutto la proposta era culturale, era identica o affine, e quindi chi viene di Francia, come chi viene di Germania, chi viene di Spagna, così come chi viene dal Regno, può andare a Bologna o dovunque altro, perché sarà inteso e intenderà le lezioni. L'andare tuttavia in un posto straniero comporta grandi difficoltà, tutto questo è già stato abbondantemente accennato stamattina, donde la necessità di organizzarsi in proprie, in associazioni particolari, frammentarie, dette nazioni, che raggruppino i francesi di un certo territorio, o i germani, o i napoletani, o i romani. Quando parliamo della nazione e della struttura delle organizzazioni studentesche a Bologna, perché ripeto, io faccio il caso di Bologna, ma per quanto valido dunque in tutto l'Occidente, noi abbiamo riferimento ad una particolare realtà dunque studentesca, che, ecco un altro aspetto, si caratterizza non solo per la sua separazione dai docenti, dai maestri, ma si caratterizza anche per la sua separazione o contrapposizione dal comune, dalla città. Cioè, i discenti si vengono prima separando dalla città e poi si separeranno dai loro maestri. Questi sono sempre fenomeni di origine, sono fenomeni genetici notissimi. Perché questo discorso? Per ricordare subito come il privilegium, la norma imperiale, la lex in privos lata, cioè la norma data dall'imperatore o da chi ne ha la potestà, che caratterizza la situazione particolare di alcune persone nei confronti del diritto generale, il privilegium, che questo è il privilegium, cioè la norma che disciplina una particolare condizione. Il privilegio, voglio dire, è, come è notissimo, è stato ricordato anche questo stamattina, è tutto un ricordare qui, il privilegio è connesso con le origini dell'università attraverso il cosiddetto Privilegium Scholasticum di Federico I Barbarossa del 1158, che non è dato all'Università di Bologna, è dato a tutti gli studenti, i quali vengono separati, semplifico perché i problemi sono molti, cerco di essere sollecito, semmai vedremo, se crederete, chi di voi crederà, vedremo meglio in discussione, semplifico dunque, che sostanzialmente il privilegio del 1158 separa gli studenti dalla società, perché autorizza gli studenti ad avere un proprio foro, un foro privilegiato, cioè a darsi dei propri giudici. Quindi il privilegium è connesso immediatamente con le origini dell'università. Non è che sia un fatto poi posteriore, abbiamo immediatamente un privilegio, però è dato dall'imperatore del Sacro Romano Impero, nella pienezza del suo potere, ed è tale, ripeto, che da separare gli studenti dalla società. Su questo privilegio si creerà poi via via l'universitas, cioè l'associazione degli studenti, quando questi stessi studenti, una volta separatesi dalla società, si separeranno anche dai loro maestri. Si daranno un'organizzazione diversa dai maestri, quindi nascerà in sostanza una sorta di comune degli studenti, contrapposto al comune cittadino e contrapposto al comune dei maestri. Questa è sostanzialmente la prima università tra il 1160 e il 1180. L'università, qui varrebbe la pena di fare alcune brevissime osservazioni, sempre di natura genetica, sempre che non siano troppe. L'università, d'altra parte, non è unica, ma è plurima. Cioè, gli studenti non si organizzano in una sola università, in una sola associazione, in un solo movimento studentesco, ma fanno tante associazioni e tanti movimenti quanti, diciamo, sono necessari. E più precisamente, almeno gli studenti a Bologna, si organizzano solo gli strumenti di diritto, inizialmente, dopo gli altri, e gli studenti di diritto non si organizzano in un'unica università, ma in due università, in due associazioni separate e distinte. Quindi, mentre si uniscono, essi si dividono. E si dividono unificandosi, scusatemi il gioco di parole, per una ragione semplicissima: per evitare che la giurisdizione, il controllo su di loro stessi, passi a gruppi che loro non possono, di cui non si fidano. In poche parole, gli italiani si organizzano in una loro associazione, i non italiani si organizzano in una loro associazione. Questo non per il gusto di fare associazioni separate, ma per darsi due diversi rettori e per avere così tutti e due il controllo su quello che conta, soprattutto sulla jurisdizione, cioè sull'applicazione del diritto interno della corporazione. Che questo è il fine di tutti. Che senso aveva per gli studenti italiani sottrarsi alla giurisdizione dei maestri se avessero poi dovuto cadere sotto una giurisdizione sempre di rettori, non so, germanici, e viceversa? In questo modo, invece, noi abbiamo il massimo di concentrazione possibile e nello stesso tempo anche il massimo di garanzia sulla giurisdizione. Ripeto, alla base di questo processo abbiamo dunque però un privilegium, a cui segue, cerco di andare rapidamente, una intensa produzione statutaria, cioè noi abbiamo una normazione intensa, secondo l'uso medievale che tutti conoscete, sapete benissimo, ogni associazione ha in sé, in base anche a quello che sarà poi la teorizzazione dei grandi giuristi di Bardo e di Baldo, la possibilità di darsi norme, e queste norme si chiamano statuti. Quindi, rapidamente, le associazioni studentesche si danno loro proprie norme. Norme per la loro gestione, quindi un diritto particolare che si contrappone, diciamo, a quel diritto generale che loro vengono studiando, al diritto dei contratti, al diritto dunque delle obbligazioni, al diritto reale, al diritto delle persone, al diritto, non so, al diritto delle successioni, che si trovano invece nei testi giustinianei che sono venuti a studiare a Bologna oppure anche dopo a Padova e negli altri posti. Quindi abbiamo una fioritura di statuti. Volevo solo osservare questo, che l'universitas, almeno a Bologna, conosce prima il privilegium e poi lo statuto. Il privilegium è dato dall'autorità universale a difesa del gruppo studentesco contro le autorità locali, contro le autorità locali. Lo statuto è l'organizzazione poi che questo gruppo studentesco, tutelato dal privilegio, a cui gruppo a cui il privilegio ha permesso di vivere, di svilupparsi, a cui la twist imperiale ha permesso di svilupparsi contro l'avida mano del comune, perché il comune difficilmente avrebbe permesso la, lo sviluppo spontaneo delle associazioni universitarie, dico, questo gruppo si viene poi organizzando e dandosi i propri statuti. Ricordo qui solo di passaggio gli statuti delle università dei giuristi di Bologna. Ricordo che il professor Maffei crede di aver indicato, di aver trovato un testo statutario delle università dei giuristi di Bologna fino alla metà del 200, poi noi abbiamo statuti dei giuristi, e poi a Bologna nel 1317 e 1347 sono gli statuti di Giovanni d'Andrea, e poi abbiamo statuti del 1432 e statuizioni posteriori, peraltro inedite, e detto qui sostanzialmente non ancora studiate. Il comune di Bologna dà anche lui delle norme sull'università, che però non sono norme che disciplinano la vita universitaria, ma disciplinano le norme del rapporto suo, del comune, con gli studenti. Per esempio, per quanto riguarda il rispetto della giurisdizione degli studenti, il diritto, le imposte sui beni degli studenti, il diritto degli studenti, molto importante questo, di cercarsi casa e di stabilire i prezzi degli alloggi, dato sempre gravissimo a Bologna, adesso non si trova più casa, ma a quanto pare era difficile trovare alloggi per studenti anche nel 1100 e nel 1200, non c'è, c'è una certa continuità, direi, in questo. Questo è, diciamo, il punto di partenza. Cioè, questo è il quadro di cui noi ci troviamo, di rapporti di privilegi e di statuti. Con un'altra aggiunta, però, una breve aggiunta. Il privilegio è cercato dall'università come modo, diciamo, per difendersi dalle autorità locali. E questo è il caso del privilegio del Kaiser Federico I, dell'imperatore Federico I, di Federico I di Hohenstaufen. Però, per garantire la vita dell'università di Bologna, dell'università a Bologna, del fatto che quei gruppi studenteschi si possono riunire a Bologna, noi abbiamo anche addirittura, e questo lo accenderò solo en passant, per completezza, un privilegio falso, il cosiddetto falso privilegio di Teodosio. Un privilegio che dovrebbe essere stato scritto da Raniero da Forlì, che troviamo nel registro nuovo del Comune, scritto tra il 1226 e il 1234, che è comunque di estrema importanza, cioè non è solo interesse, non lo riferiamo solo perché è riferito a Bologna, ma è di sapore generale. Voi sapete che in una Costituzione, precisamente nella Costituzione Tante, nella Costituzione Deo, e nella Costituzione Deo Auctore, Giustiniano stabiliva che il diritto romano giustinianeo si poteva insegnare solo a Berito, a Beirut, a Costantinopoli e a Roma. E allora come si faceva ad insegnare il diritto romano anche a Bologna? Come si faceva ad applicare, a studiare il diritto romano dell'imperatore Giustiniano a Bologna quando Giustiniano questo lo vietava? Per ottenere questo risultato viene costruito un falso privilegio, il cosiddetto falso privilegio di Teodosio, secondo il quale l'imperatore Teodosio II nell'anno 432 avrebbe messo Bologna tra le civitates regie, e quindi a Bologna sarebbe stato possibile insegnare il diritto romano giustinianeo. Chiudo dunque questa prima parte dicendo: l'università nasce come separazione dalla realtà sociale e dai docenti. L'università, via via che nasce, si fornisce di statuti. Statuti dell'università e statuti delle nazioni che formano l'università. Questo complesso di norme è tuttavia, direi, garantito fin dal principio dall'esistenza del privilegium, cioè di norme speciali che proteggano gli studenti o l'insegnamento del diritto a Bologna. Veniamo. Un'ultima osservazione su questo punto. I privilegi sono per tutta l'università. Venendo brevemente, spero, al punto nodale di questo dire, cioè ai problemi posti a Bologna dall'età umanistica. L'età umanistica si presenta, è un punto questo di estrema delicatezza, con cui lo storico del diritto non ha, a mio avviso, ancora compiutamente fatto i conti, e con cui neanch'io certamente ho fatto i conti. Ma l'occasione qui è buona, è positiva, per indicare alcuni problemi. Prima di tutto, non dirò che cos'è il movimento umanistico, ma il movimento umanistico come realtà nuova, come non so, riscoperta dell'età antica, delle lettere antiche, dei modelli romano-classici, si impatta, si scontra anche con il movimento, con l'insegnamento giuridico, con il movimento degli studi giuridici, con la scuola giuridica. E questo vale a Bologna o a Padova dappertutto, perché il modello giuridico bolognese è uguale dappertutto. Cioè, dappertutto si insegna con la glossa e col commento il complesso, si studia, scusate, sul complesso dei testi del diritto giustinianeo. Il codice, il disestro, le istituzioni. Voglio cioè dire che l'intuizione di Irnerio resta valida. Siamo nel 400, resta valida. Nemo iurista nisi justinianeus, nisi justinianeo. Nessuno può essere giurista se non studia il diritto giustinianeo. Nella posizione di Irnerio, la posizione di Irnerio, cioè la posizione bolognese, è in realtà abbastanza singolare. E direi da questo lato il movimento umanistico ha come effetto di mostrare la contraddittorietà del movimento giuridico bolognese, dell'insegnamento bolognese. L'insegnamento bolognese è in realtà abbastanza contraddittorio. Perché? Perché pretende fin dal 1100, ma così ancora nel 1200, così ancora nel 1300, di rispondere alle esigenze giuridiche nuove utilizzando un diritto vecchio. Pretende in sostanza di rispondere alle novità con una struttura giuridica addirittura arcaica. La scuola bolognese in realtà è riuscita a compiere questo che vari autori definiscono un miracolo. Ma come ci è riuscita? Ci è riuscita appresso di una lettura aggiornante, evolutiva, in sostanza alterante, del diritto romano. Ossia, il diritto romano si può applicare a Bologna nel 200, a Pisa nel 200, in Germania nel 300, non so, a Monaco, a Augsburg, dove volete, ma solo attraverso una lettura evolutiva, modernizzante, insomma, se ne facciamo un oitigen romischere, no? Un diritto romano a Gioale, per usare i termini di Sabini. Cioè al prezzo di un uso alterato, disinvolto del diritto romano. Il movimento umanistico, mi pare da questo lato, entra interamente in crisi, in scontro col movimento bolognese. Perché il movimento umanistico, i letterati umanisti, non chiedono più che il diritto romano venga letto secondo un occhio moderno, ma anzi esigono al contrario che il diritto romano sia letto con occhio originario, antiquario. Questa è la novità del movimento umanistico. Quando quindi il movimento umanistico impatta durissimamente con l'insegnamento giuridico, perché il movimento umanistico vede nell'insegnamento giuridico quella alterazione del diritto romano che in realtà c'è. Non è che non veda quella, vede quello che c'è. Cioè vede che il diritto romano in Italia e in tutta Europa, perché il diritto romano è usato nel 400 largamente in tutta Europa, viene usato in termini modernizzanti, in termini alteranti. Questo scontro avviene chiaramente anche a Bologna ed è indicativo, se mi permettete, se seguiamo un momento l'andamento, vedere come vanno le cose, almeno a Bologna, che è la roccaforte degli studi giuridici tradizionali, ma lo è non meno per esempio di Padova, per esempio, non c'è dubbio, di Siena. Tutti i giuristi sono irneriani, perché hanno imparato solo il diritto sulla scia dell'irnerianesimo, cioè secondo l'ha insegnato Irnerio e i suoi allievi, cioè i glossatori. Quando un umanista, tipo per fare il caso di, non so, di Lorenzo Valla, che è il primo che attacca duramente, se non vado errato, mi rilascio da ultimo a letture sul libro di Maffei. Ma per il modo, prendiamo un esempio tipico, insomma. Valla fino al 1433. Valla nel 1433 attacca durissimamente la presunzione dei giuristi di spiegare tutto mediante Bartolo da Sassoferrato e afferma che anzi Bartolo scrive male di latino, non conosce la storia, non sa leggere i testi romani, ossia fa delle critiche a Bartolo che non sono critiche giuridiche ma che sono critiche umanistiche, che direi cominciano a sottolineare quella gravissima separazione tra mondo delle lettere e mondo del diritto, che non mi pare tutto sommato sia ancora chiuso, tra il tecnico del diritto, che ha bisogno di un'applicazione normativa, e il letterato che insomma dice ma tu scrivi male, o tu leggi male. È chiaro che al giurista non importa se la sentenza sia scritta bene o sia scritta male, importa che faccia stato in quella questione. Le esigenze da coprire sono diverse. Ho l'impressione, cioè, che il movimento umanista si trovi in grande imbarazzo davanti al giurista, imbarazzo che rapidamente si trasforma in fastidio, in ira. Gente che così mal scrive, che così male sa di latino, deve avere posizioni così rilevanti, dominare l'università e dominare la scuola e dominare la pratica. Oltretutto guadagnare un mucchio di soldi. Io ho questa impressione, cioè che il primo impatto è un impatto di incomprensione profonda e addirittura di astio per la dominanza del giurista nell'università, per cui l'università è per tre quarti, non in tutto, una scuola di diritto, e quello che conta è una scuola di diritto, è fare del diritto, e direi anche i migliori ingegni, direi, tendono ad andare a fare del diritto, perché là si guadagna di più. Quindi c'è tutta una preeminenza culturale, ideale e patrimoniale, nella scuola e nella pratica. L'umanista, scusate, cerco di arrivare alla conclusione. Questo mi spiega, mi permette di passare poi al terzo punto. L'umanista, in realtà, l'incomprensione tra giurista e umanista non può che rimanere. L'umanista, il letterato, cambia il suo bagaglio culturale, lo modifica. Cioè l'umanista è quello che porta all'università un nuovo testo classico, una nuova lettura di Cicerone, una serie di autori classici, prima sconosciuti o non studiati, o, mutatis mutandis, Aristotele nelle sue forme nuove. Quindi Aristotele è l'umanista. Cioè l'umanista arriva all'università nel 400 con dei nuovi strumenti scientifici. A Bologna, per esempio, ci arrivano, non so, il Beroaldo, Urceo Codro. Ci sono dei grandi, no? E i giuristi, invece, sempre a Bologna nel 400, ripeto, mi scuso ancora, di questo taglio un po' provinciale, se volete, bolognese. Chi sono i giuristi a Bologna nel 400? Cioè, mentre gli umanisti portano nell'università, a Bologna come altrove, evidentemente, nuovi testi, nuovi argomenti, un nuovo modo di vedere, i giuristi non portano nuovi testi, nuovi argomenti e nuovi modi di vedere, ma continuano a portare il materiale precedente. Chi c'è a Bologna? Facciamo solo una scorsa, per l'amor di Dio. Abbiamo Bartolomeo da Saliceti. Parlo dei giuristi che sono a Bologna nel 400, Paolo di Castro, Pietro d'Ancarano, Giovanni da Imola, Bernardino Zambeccari, Angelo Gambiglioni da Reggio, Francesco Accolti, Andrea Barbastra, Antonio da Pratovecchio, Alessandro Tardani, Lodovico Bolognini, Bartolomeo Socini, Cesare Ruini, Andrea Alzato e Mariano Socini. Stiamo parlando di giuristi tra i primi del 400 e la metà del 500. Praticamente, a parte gli ultimi, non ci sono giuristi umanisti. Cioè il 400 bolognese, e così da altra parte, è occupato ancora da giuristi del Mos Italicus, della scuola tradizionale italiana. Perché? Mi vuole una spiegazione. Perché mentre l'umanista, il letterato, diciamo per semplificare, il letterato, il filologo, il filosofo, modifica i suoi contenuti, il giurista, ripeto, non modifica i suoi contenuti. Le nuove scoperte di fonti giuridiche, ce ne sono parecchie, non so la legge romana dei Visigoti, la restituzione che viene fatta del codice di Teodosio, l'editto di Teodorico, il complesso delle nuove scoperte sul diritto romano non è tale da sostituire il diritto di Giustinianeo, perché si tratta di materiale più antico di quello di Giustinianeo, non più recente. Quindi il giurista non può cambiare, modificare i suoi strumenti, allargare molto i suoi strumenti di lavoro, li allargherà un po', ma non molto. Né, e questo è un argomento delicato, molto tecnico, il giurista può passare allo studio del cosiddetto diritto nazionale o popolare. Non può disfare l'operazione di Irnerio. Non può nel 400 o nel 500 mettersi a studiare il diritto, diciamo, della gente così comune, il vecchio diritto popolare, il vecchio diritto longobardo, il vecchio diritto, le consuetudini locali o il diritto dei principi. Ossia, per il giurista non c'è materiale che possa sostituire il diritto romano giustinianeo. Questo è tanto vero, che l'insegnamento giuridico, pur sottoposto alle accuse crescenti degli umanisti, resta dominante nell'università. Resta di tipo tradizionale e resta dominante l'università. Cioè l'insegnamento giuridico tradizionale rimane in grado di caratterizzare, di opporsi, diciamo, al movimento umanistico e di rispondere alle esigenze della pratica. Lo vediamo dal dai dati. A Bologna, per esempio, io ho preso dei dati emblematici, relativamente tipici. Ad ogni modo, alla fine del Cinquecento, quindi quando il movimento umanista ha ormai raggiunto tutti i suoi risultati, e quando la separazione tra movimento umanista e giuristi tradizionali è compiuta, quando tra vecchi bartolisti e nuovi ciceroniani l'abisso è totale, quando i giuristi non sono più di moda, perché la moda ormai è per ben altre cose, bene, a Bologna i laureati in diritto nel 1583 sono 62 e i 25 sono i laureati in artibus, cioè i laureati in medicina, in filosofia o in lettere. Così nell'83, così nell'84, fino, per esempio, non vi atteggio per spero di non tenere troppo, ma nel 1588 ci sono a Bologna laureati, non studenti, laureati, 83 laureati in diritto contro 22 laureati in artibus. Complessivamente, solo per i laureati a Bologna, nel decennio 1583-1592, noi abbiamo 586 giuristi contro 189 umanisti. Voglio cioè dire che l'attacco portato dagli umanisti ai giuristi, fondato e giustificato sulla notevole alterità degli studi giuridici, non è stato tuttavia in grado di togliere via quella dominanza dei giuristi, almeno nel loro settore, non è stato in grado dunque di trasformare, secondo me, radicalmente l'insegnamento giuridico tradizionale. Noi potremmo anche vederlo da un altro dato che è abbastanza interessante e che mi sono premurato qui di scrivere, singolare, particolarmente. Nel 1515 vediamo gli stipendi, cioè vediamo come l'insegnamento dei giuristi e degli umanisti incide sulla realtà. Lo abbiamo visto per la fine del secolo sul numero dei laureati. Possiamo vederlo anche sugli stipendi, in base al principio, per esempio, che un maggior stipendio va ad una persona più gradita dalla società, motivo per cui forse noi attualmente non siamo molto graditi, non so in Germania, ma in Italia non siamo molto graditi dalla società, almeno io, non so gli altri qui colleghi autorevoli che ci sono, in persona, nel caso mio non sono molto graditi. Allora, se noi guardiamo gli stipendi, noi vediamo che i giuristi, che sono giuristi tutti di tipo tradizionale sostanzialmente, nel Cinquecento, guadagnano molto di più dei letterati, dei filosofi, ma molto. La tabella del 15, per esempio, prendendo solo le prime 5 posizioni del 1515, età umanistica quant'altri mai, abbiamo per esempio Ruini, giurista che insegna diritto civile in termini tradizionali o con una certa serie di modernità, ma non molto, che guadagna 2.275 bolognini, mentre Piero Pomponazzi, filosofo, guadagna 900 bolognini. Pari al Fantussi che insegna, al secondo insegnante di diritto civile, che pure prende 900 bolognini. Poi seguo un altro giurista e poi il Leone. E poi seguo un filosofo. La situazione è relativamente modificata alla fine del secolo, ma non molto, se noi abbiamo il Papio, 1581, l'anno di cui prima indicavamo, il numero di studenti, noi abbiamo il Papio che guadagna ancora 4.200 bolognini contro il filosofo Pedaggio che ne prende appena la metà, 2.400 bolognini, e seguito dal Sigonio, lo storico, con 2.400 bolognini. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il complesso dell'attacco del movimento umanistico al tradizionale insegnamento giuridico ha degli effetti dirompenti, per ragioni che qui non stiamo forse a elencare, molto significativi soprattutto per quanto riguarda la sistematica del diritto, ha come effetto di togliere al diritto il ruolo primario dominante che aveva nelle università, ma non ha per effetto di escludere l'insegnamento tradizionale dalle università. Quindi, le nazioni a Bologna in età umanistica, per riprendere e avviarmi alla conclusione, sono ancora nazioni giuridiche, nel 400 e nel 500 organizzate secondo i modelli tradizionali che tendono a avere gli insegnamenti tradizionali, ossia l'insegnamento delle pandette, del codice, del volume e delle istituzioni, e tendono ad essere ancora in maggioranza come numero di studenti. Questa è una specificità di Bologna. Peraltro, abbiamo anche a Bologna un preciso intervento, una certa serie di interventi dello Stato. Interventi dello Stato che hanno sempre però quel carattere particolare, limitante, direi catturante dell'università, che ha avuto lo stesso provvedimento di Federico II per l'Università di Napoli. Quando il principe interviene sull'università, è comunque, mi riallaccio a quello che c'è stamattina, per controllarne l'efficacia, assicurarne un ruolo locale, e comunque è tale da interrompere il ciclo generale, universale, della cultura, come si aveva nell'alto medioevo, nel basso medioevo. Il principe gioca su un piano statuale e quindi su un piano limitante, frenante e direi, se mi permette la parola, chiudente, rinchiudente. Questo vale già per Federico II, questo vale sicuramente anche per lo Stato a Bologna, sebbene lo Stato a Bologna sia molto debole. E quindi è una presenza che non si fa sentire molto, si fa sentire abbastanza poco, tuttavia si fa sentire. Ricorderò, tanto qui di passaggio, la fondazione dell'Archiginnasio, cioè ricorderò che anche a Bologna, come ciascuno di voi potrebbe dire per le sue sedi o per sedi che conosce, abbiamo la costruzione di un edificio in cui includere l'università. L'università non è più libera per la città, non si lega più alle varie cellule cittadine come voleva, ma viene in qualche modo rinchiuso in un edificio, sia pure solenne e fastoso, come nel caso di Bologna e l'Archiginnasio. Ricordo, insomma, gli interventi massicci del principe sull'università, ce ne sono parecchi in Italia, peggio ricorderei così di passaggio quelli di Pisa del 1543 o di Siena del 1589. Vorrei concludere. Queste naciones, che sono entrate a far parte dell'università come corpo unico, omogeneo, che si contrappone al comune e agli studenti, sono ancora ben vive a Bologna, e non c'è dubbio, a metà del Cinquecento. E lo sono anche nel Seicento e nel Settecento, anche se vanno progressivamente esaurendosi. Queste naziones si continuano ovviamente a dare degli statuti, ma si caratterizzano sempre di più per il loro, direi, emergere improprio sulla scena cittadina e sulla scena universitaria. Cioè, almeno a Bologna, l'istituto del rettore tende a scomparire, l'università come insieme tende a, l'unità degli studenti come insieme tende a scomparire, e gli interessi degli studenti contro i poteri locali vengono tutelati dalle naziones più che dall'università nel suo complesso. Ricordo che a Bologna, è un fenomeno però abbastanza generale, il rettore degli studenti scompare col 1579 ed è una struttura in crisi fino dai primi del Cinquecento. Cioè l'università come entità globale è relativamente in crisi. Spiccano le nazioni, o almeno ne spicca una particolarmente, che è la nazione germanica. La nazione germanica, che è il nervo dell'università degli ultramontani, che continuano a venire a Bologna, ricordo il libro del Knode, che dà gli elenchi, i nomi, ad affollare Bologna come le altre università, e vabbè, Bacco come a Pisa, come a Padova, non c'è dubbio, continuano a venire anche in presenza di nuove università germaniche. Questa università, questa nazione, la nazione germanica, si ricopre di nuovo di un privilegio, ma di un privilegio speciale, particolare per sé, non più per tutta l'università, un privilegio solo per la nazione germanica, che è il famoso privilegio di Carlo II, di Carlo V, scusate, del 25 febbraio del 1530, con vari contenuti che non stiamo qui a indicare, d'altra parte notissimi, ma con un contenuto soprattutto fondamentale, cioè con il ribadimento, con la conferma della jurisdizio, cioè del fatto che gli studenti di nazione germanica a Bologna non possono essere giudicati altro che da loro stessi, dal loro priore, dal loro capo. Questo è il punto nodale del provvedimento, che poi contiene altre norme importanti, una per esempio quella di portare le armi ai priori, che è un fatto ben delicato e preoccupante. Il portare le armi in una città piccola. Ora dico, noi abbiamo, ricompare dunque il privilegio, ricompare verso la fine, a metà del Cinquecento, dato ancora dall'imperatore, ma dato ad una comunità particolare, ancora una volta, questo sì, a tutela contro le autorità locali. In questo senso il privilegio svolge la stessa funzione. Chi poteva minacciare la giurisdizione degli studenti tedeschi, germanici, scusate, a Bologna, se non il comune? Quindi da questo lato Carlo V segue la vecchia strada dell'habit di Federico I, Barbarossa. Solo che questa norma viene, anche questo è noto per l'amor di Dio, confermata dal Papa, da Clemente VII e poi dai papi successivi, e quindi viene confermata dallo Stato. Prova evidente, altra porta aperta, prova evidente che l'autorità imperiale non serve più se non garantita dalla nascente autorità principesca, che pure, ripeto ancora, è abbastanza debole. A Bologna resta molto debole, a Bologna in genere, in buona parte, in tutto lo Stato della Chiesa, resta una realtà abbastanza marginale. Infine, il privilegio viene confermato ancora dal Senato di Bologna. Quindi noi abbiamo le nazioni a Bologna, o meglio la nazione germanica, l'unica vera dominante, che si presenta come nazione privilegiata, mostrando in qualche modo il nucleo di cui tutto un po' l'atteggiamento del gruppo studentesco bolognese, che non è più unitario ma che è frammentato in gruppi aristocratici e particolari, che si tutelano in proprio nei confronti dell'autorità locale, svolgendo dunque, superando dunque quella tutela di ordine generale che prima era svolta da un universitas, che invece è notevolmente in crisi, ripeto. Io continuo a considerare l'università, mi pare correttamente, come l'associazione degli studenti. Un'ultima nota. Le nazioni a Bologna ritrovano il privilegio d'età umanistica. Lo ritrovano per loro stessi, dunque, e nelle stesse funzioni del vecchio privilegio imperiale. Ma continuano anche a darsi statuti. Quindi, lo Stato, per esempio, la nazione germanica conosce una serie di statuti. Ricordo particolarmente la nazione germanica perché l'ho studiata, tutti questi argomenti sono tutti aperti allo studio, non c'è dubbio, qui il discorso è molto complesso, è tutto da fare, per l'amor di Dio. la nazione germanica si dà una certa serie di statuti, 1574, 1589, 1610, 1662, 1733, 1750. Si dà una serie di statuti. Lo statuto però è ormai una norma semplicemente interna, secondaria, particolare. Nei confronti della realtà statale il ruolo dominante è questo del privilegio. Per cui si deve dire evidentemente che le corporazioni studentesche a Bologna, pur presenti, pur ancora attive, pur ancora capaci di difendersi, non svolgono più quel ruolo dominante, quel ruolo centrale che avevano nella bassa medioevo, nel 200, nel 1100, quando in sostanza era dal loro statuto, dalla forza della loro coesione e dalla loro capacità, direi, di combattere, che veniva fuori la loro autonomia. Confermo, d'altra parte, ripeto, la tendenza a Bologna nell'età umanistica, per i giuristi, questi tratti scuole, in genere scuole di giuristi, di un limitato effetto dell'età della scienza umanistica e una moderata trasformazione della scienza giuridica legata appunto ai contenuti scientifici di essi. Dati certi contenuti, non si poteva, a mio avviso, troppo cambiare. Nel ringraziare il professor Colliva di quello che egli ci ha detto, credo che, mi riferisco adesso particolarmente agli italiani, poi il professor Elze farà altrettanto per i nostri amici e colleghi tedeschi, credo che sia interessante il fatto che la Nazio, e direi molto opportunamente ai fini del nostro lavoro, non è stato visto in quanto istituto della o nella università, ma è stato visto nella dinamica dello svolgimento della università, cioè come un organismo concreto che si è venuto sviluppando e trasformando nel tempo. Voi avete visto, si è partiti dalla Nazio, che costituisce per così dire l'università, si finisce alla Nazio come gruppo nell'università. Ma qui io mi fermo, passo la parola, prego di parlare al professor Elze. Möchte versuchen, zusammenzufassen, was Herr Colliva gesagt hat. Ich muss gleich sagen, dass ich leider ein schlechter Zusammenfasser bin, weil wir immer gleich eigene Überlegungen hineinfahren und ich doch eigentlich nur das vortragen soll, was eben auf Italienisch vorgetragen worden ist. Ich will versuchen, mich auszuschalten, so gut ich irgend kann, zumal da ich eigentlich nichts gegen Herrn Colliva zu sagen habe, insoweit ist die Sache für mich leicht, sondern höchstens an einigen Stellen das ausspinnen würde, was er uns kurz gesagt hat. Er hat in seiner verhältnismäßig langen Einleitung, die nötig war, darauf hingewiesen, dass eigentlich am Anfang von Bologna eine wichtige Erfindung, wie er sagt, steht, nämlich, dass man die unendlich vielerlei personellen und regionalen Rechte nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa ersetzen können müsse durch das eine römische Recht in der Form, die es durch Justinian bekommen hat. Er wies dabei darauf hin, dass Irnerius, der Gründer, der Erfinder dieser Idee gilt, da würde ich dann eventuell Kritik anmelden, nicht romanischer, sondern germanischer Herkunft, wenn auch sicher ein Italiener, wie man heute sagen würde, gewesen ist. Das war eben in den Ländern der, also schon wieder mehr als Herr Colliva gesagt. Herr Colliva sagt dann, dass er noch einmal betonen möchte, was er heute früh schon gesagt hat und was heute früh vielleicht nicht deutlich genug in der Diskussion dann herauskam. Für ihn ist Universität oder Universitas nur der Zusammenschluss von Studenten. Und er sagt, wenn heute man von Universitäten spricht und damit das meint, was im 12. Jahrhundert Studium geheißen hätte, dann sei das nichts weiter als der Beweis dafür, wie erfolgreich die Gründung dieser Universitäten, dieser Universitates durch Studenten gewesen sei, die dazu geführt hat, dass der Name eines vielleicht wichtigen Teils dieser Lehranstalt heute zum Totum, also zur Bezeichnung des Ganzen geworden ist. Für Bologna sagt Herr Oliva, dass bevor es zu den Universitates kam, es gab in Bologna zwei, eine der Cismontani, eine der Ultramontani. Zunächst zwischen dem jeweiligen Dozenten und den Studenten eine Societas bestand, die eine Art Werkvertrag zugrunde hat. Der Dozent schließt mit mehreren Studenten einen Vertrag, in dem er sich verpflichtet, gegen bestimmte Bezahlung im Laufe eines Jahres ein bestimmtes Pensum zu liefern, das heißt ein Buch aus dem römischen oder kanonischen Recht zu lehren, etc. Und dieser Werkvertrag, Contratto d'opera hat er es ausdrücklich genannt, sei zunächst eben eine mehr oder weniger private Angelegenheit zwischen ein paar Studenten und jeweils einem Dozenten gewesen. Erst bei gegebener Veranlassung, Sie brauchen sich nur zu überlegen, was geschieht, wenn der Werkvertrag nach Meinung der einen Partei oder der anderen nicht voll eingehalten wird, hätten sich die Studenten ohne und eigentlich mehr noch gegen die Magister zu Universitates zusammengeschlossen, um gemeinsam ihre Interessen vertreten zu können. Wobei Herr Koliba meines Wissens offen gelassen hat, ob zuerst landsmannschaftliche Zusammenschlüsse, Nationes, oder zuerst der allgemeine Zusammenschluss aller Studenten zu einer Universitas stattgefunden habe. Ich glaube, man kann ganz eindeutig sagen, was hier zuerst war, lässt sich nicht mehr feststellen. Wahrscheinlich ist das alles ziemlich gleichzeitig gewesen. Die Universitas ist aber nicht nur eine Interessenvertretung, ein Zusammenschluss gegenüber dem Magister, den Professoren, sondern auch und vor allen Dingen ein Zusammenschluss gegenüber der Kommune, das heißt der Stadt und ihren Behörden, Ämtern und Gerichten. Hinsichtlich des Gerichtsstandes der Mitglieder der Universitas ist nun das heute früh schon genannte Privileg Friedrichs I. Habita, das, wie Herr Koliva mit Recht betont, nicht für Bologna gegeben worden ist, sondern für alle Studenten und alle Magister im Reich, aber in Bologna eben besonders sozusagen wahrgenommen worden ist, und damit wird es also zu einem Grundgesetz für Bologna. Dieses Privileg garantiert vor allen Dingen die freie Wahl des Gerichts für die Mitglieder der Universitas und entzieht sie damit dem Zugriff sowohl kirchlicher Obrigkeit als auch städtischer Obrigkeit oder landesherrlicher Obrigkeit. Und das ist also verhältnismäßig wichtig. An einer Stelle hat Herr Koliba gesagt, es gab eigentlich drei Comuni, das heißt drei Gemeinden. Das Comune degli Studenti, das ist die Universität, das Comune Cittadino, das ist die Stadt, und ein Comune dei Maestri, das ist ein Interessenzusammenschluss der Magister, der in Rechtsformen allerdings am wenigsten seinen Ausdruck gefunden hat. Die zwei Universitäten in Bologna, jetzt sage ich Universität statt Universitas, nämlich die der Italiener und die der Nicht-Italiener, hat er erklärt, auch und vor allen Dingen aus dem Grunde der Gerichtsbarkeit. Wenn schon das kaiserliche Privileg dazu dienen sollte, dass kein Fremder von einem italienischen Richter gerichtet wird, dann konnte es keinesfalls etwa meinen, dass nun ein Italiener von einem Nicht-Italiener gerichtet wird. Das heißt, es darf kein nicht-italienischer Rektor der Universitas die Gerichtsbarkeit über die italienischen Mitglieder haben. Und daher habe es wohl vor allen Dingen die zwei Universitates gegeben, die italienische, wo der italienische Rektor die Gerichtsbarkeit über die italienischen Studenten hat, und die Ultramontane, wo ein Nicht-Italiener über lauter nicht-italienische Studenten regiert oder herrscht oder wie sie wollen. Nun zu dem Thema, das ja heißt, vom Statutum zum Privilegium und spätestens an dieser Stelle werden alle gedacht haben, wann kommt denn nun eigentlich das Statutum und warum redet er vom Privileg zuerst und nicht, oh Gott, ich rede schon wieder Else und nicht Colina, pardon. Also, nachdem die Universität dieses Privileg Friedrich des Ersten sich zu eigen gemacht hat, hat sie begonnen, eigene Gesetze in der Form der Statuten zu erlassen und alle nötigen Dinge in Statutenform zu regeln. Ältesten Statuten von Bologna sind möglicherweise, das ist eine ganz neue Veröffentlichung von Domenico Maffei, schon aus dem 13., aus der Mitte des 13. Jahrhunderts erhalten. Bisher kannte man sie nur vom Anfang des 14. Jahrhunderts an in mehreren Versionen, die chronologisch aufeinander folgen. Es gibt nicht nur Universitätsstatuten, sondern auch städtische Statuten, die Universitätsangelegenheiten regeln, insbesondere etwa das Mietwesen und Lebenshaltungskosten, also Lebensmittelversorgung von Studenten und Ähnliches. Herr Colina hat außer dem Privileg Friedrich des Ersten dann noch von dem Privileg des Theodosius gesprochen, einer Fälschung aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, da Justinian, der große Gewährsmann für alle Juristen in Bologna ist, eine Verfügung erlassen hat, die auch in die Gästen steht, dass das Recht nur in Rom, Konstantinopel und Beirut und in Athen studiert werden könne, hat Theodosius schon vor Justinian nach dieser Fälschung auch Bologna zu den königlichen Städten hinzugefügt, sodass also das Rechtsstudium in Bologna angesichts dieses freilich gefälschten Privilegs nicht mehr bezweifelt werden konnte. Der zweite Teil von Herrn Colliva, ich kann jetzt kürzer werden und er ist es selber an dieser Stelle auch gewesen, sagt, dass der Humanismus von und für die Rechtshistoriker eigentlich noch immer ein ziemlich unbearbeitetes Feld sei. Es sei also noch keineswegs die Stellung des Rechts im Humanismus aufgearbeitet. Er sagt aber, für Bologna kann man von vornherein ganz klar einen inneren Gegensatz, einen Widerspruch zwischen dem Humanismus und der Jurisprudenz feststellen. Denn die Bologneser Rechtswissenschaft, die ursprünglich, könnte man fast sagen, von einem ganz humanistischen Ansatz ausgegangen ist, nämlich das Recht des 6. Jahrhunderts für das 12., 13., 14., 15. Jahrhundert praktikabel zu machen, musste anders lesen, als die Humanisten, die Philologen sind, gelesen haben. Denn viele Dinge, die im 6. Jahrhundert ganz akut waren, konnten auf die Wirklichkeit des 12. bis 15. Jahrhunderts nicht angewandt werden. Und das römische Recht ist also in der Bologneser Schule geändert worden, der Praxis oder der Verwertbarkeit angepasst worden, während die Humanisten zurückgehen auf den guten, reinen, alten Text und zum Beispiel Lorenzo Valla 1433 den Bologneser Juristen vorwirft, ihr beruft euch auf Bartolus als euren wichtigsten Gewährsmann, aber der konnte Latein weder lesen noch schreiben, denn er hat es nicht richtig verstanden, was er gelesen hat und was er geschrieben hat, ist so scheußlich, dass man es nicht verstehen kann. Dieser Gegensatz zwischen dem willentlich und wissentlichen Verändern des alten Textes aus der Spätantike zu juristischen Zwecken der Gegenwart und andererseits zwischen der philologischen Bemühung um möglichst gute alte Texte und deren möglichst gutes und eindeutiges Verständnis, das sei, wie Herr Colliva sagt, der Hauptgrund dafür, dass zwischen den Humanisten und den Juristen in Bologna seit dem 15. Jahrhundert Gegensätze aufreißen, die bis ins 17. und 18. Jahrhundert bestehen geblieben sind. Er sagt aber dann noch, die Humanisten haben die Juristen auch noch aus einem anderen Grund kritisiert, und zwar wegen ihres Prestiges, wegen ihrer Vormachtstellung innerhalb der Universität, die bis in das Ende des 16. Jahrhunderts trotz allen Fortschritts humanistischer Wissenschaften ungebrochen geblieben ist. Und er hat ein paar Ziffern genannt, von denen ich nur einen Teil behalten habe, die aber, glaube ich, schon sehr deutlich sind. In den 10 Jahren von 1583 bis 1592 hat es 586 juristische Promotionen in Bologna gegeben und im gleichen Zeitraum 189 Promotionen der anderen Fächer, die in Bologna als Artisten zusammengefasst sind. Das heißt, da sind die Mediziner, wenn ich recht verstanden habe, in Bologna dabei, die Theologen wohl allerdings nicht. Bei den Gehältern ist es so, dass das Spitzengehalt, er hat zwei Listen von 1515, 1581 vorgestellt, jeweils der höchstbezahlte Professor mehr als das Doppelte des zweitbestbezahlten Professors kriegt. Der bestbezahlte jeweils ist ein Jurist. Da muss ich sagen, dass ich trotz gespitzter Ohren den Juristen von 1515 schon deshalb einfach nicht mitbekommen habe, weil ich den Namen noch nie gelesen oder gehört habe. Wohingegen der Artist, der das zweithöchste Gehalt kriegt, Pomponazzi, durchaus, glaube ich, nicht nur mir bekannt ist. Und 1581 ist es also genauso, der drittbestbezahlte ist dort der nicht ganz unbekannte Historiker Sigonius, der eben weniger als die Hälfte kriegt als der bestbezahlte, der Jurist. An einer Stelle hat Herr Oliva noch versucht deutlich zu machen, dass diese Beibehaltung der Vormachtstellung der Juristen trotz kaum geschehener Veränderung oder Modernisierung ihrer Wissenschaft auch ihre Gründe gehabt habe. Er sagt nämlich, auch im Bereich der Rechtswissenschaft hat man neue Texte entdeckt. Aber, ich übertreibe jetzt etwas das, was er gesagt hat, das Unglück für die Rechtswissenschaft wollte, dass diese Texte alle älter waren als das Corpus Juris Civilis von Justinian, sodass sie zwar humanistisch interessant waren für die Rechtspraxis, aber keinerlei Veranlassung zur Änderung gaben. Der Codex Theodosianus ist für die gelehrten Juristen des 16. Jahrhunderts eine wichtige Sache, für die Rechtspraxis des 16. Jahrhunderts überhaupt nicht und null. Und genau dasselbe gilt für die Lex Romana Visigothorum oder andere Texte, die Herr Colliva genannt hat. Nun, der letzte Teil, denn jetzt werden Sie wieder fragen, wo bleibt das Privileg am Schluss? Herr Colliva sagt, die Nationen bestehen in Bologna im 15., im 16. Jahrhundert in voller Blüte und sie bestehen auch noch länger. Und sie sind und bleiben Nationen, deren Mitglieder vor allen Dingen Juristen sind. Er hat angedeutet, dass auch in Bologna staatliche Eingriffe, Bologna gehört zum Kirchenstaat, stattgefunden haben, Effizienzkontrolle, Niveaukontrolle und vergleichbar, sagt aber mit Recht, dass die staatliche Obrigkeit schwach und infolgedessen diese Eingriffe nicht sehr wirksam gewesen sind. Allerdings sei durch den Bau und die Gründung des Archigymnasio, des Universitätsgebäudes, ein wichtiger staatlicher Eingriff erfolgreich geworden, nämlich von dann ab hat die Universität Bologna eben die feste Einrichtung, die die freie Beweglichkeit, von der heute früh die Rede war, hätte einschränken können. Der Rektor und die Universität, und das ist wohl eine besondere Einrichtung von Bologna, verschwinden fast im Lauf des 16. Jahrhunderts. 1579 der letzte Rektor. Trotzdem bleibt das, was wir die Universität nennen, und sie wird jetzt vor allen Dingen getragen von den Nationen, die auch bleiben, und ihren Prioren, die mehr und mehr die Partner der Stadt und der Magister auftreten. Die wichtigste der Nationen ist die Natio Germanica, und dafür gibt es nun das Privileg, mit dem Herr Colliva geschlossen hat und ich meine zu lange Zusammenfassung auch schließen möchte. Die Natio Germanica erhält von Karl V. am 25. Februar 1530, das ist der Tag seiner Kaiserkrönung in Bologna, das füge ich nun doch zu, die Bestätigung aller ihrer Privilegien. Es wird bestätigt neu das Privilegium Fori der Constitutio Habita, Friedrich des Ersten, aber auch andere Privilegien, zum Beispiel erhalten die Prioren der Nation das Recht, Waffen zu tragen, was in einer kleinen Stadt wie Bologna, wie Herr Colliva mit Recht betont, eine gefährliche Sache gewesen ist. Neu an dem Privileg ist nicht so sehr sein Inhalt und nicht so sehr das Faktum, dass man es erbeten und erhalten hat, sondern dass es durch den Papst, nämlich den Landesherrn des Kirchenstaats, bestätigt wurde, Clemens VII., und nicht nur durch den Papst, sondern auch noch durch den städtischen Senat, also den Senat von Bologna. Und das Einzige, was noch zu sagen ist, das war sozusagen der Epilog, dass die deutsche Nation in der Universität Bologna nach diesem Privileg sich bis tief ins 18. Jahrhundert immer noch weiter Statuten gegeben hat. Also die Statutengesetzgebung hat sich auch. Langsam und deutlich. Mich würde als reine Informationsfrage interessieren, wie die genaue Abgrenzung zwischen diesen Nationen gemacht worden ist, bezüglich ihrer Mitglieder, zum Beispiel nach Provinzgrenzen, Kirchenprovinzgrenzen. Denn ich meine, im Alpenraum geht es ja etwas durcheinander. Das ist das eine. Und dann die andere Frage, kam es im Laufe des späteren Mittelalters, also dieser Periode, zu Gegensätzen zwischen diesen Nationen, die zum Beispiel fußen konnten auf gewisse Invektiven gegenüber Italien oder umgekehrt eben gegenüber den Germanischen. Es ist ja auch die Zeit des wachsenden Nationalgefühls überhaupt in Europa. Hat sich das irgendwie auch inneruniversitär ausgewirkt? La seconda parte non benissimo, la prima mi pare di aver intesa. Direi questo, la domanda che è stata rivolta è estremamente puntuale sul piano del che cos'è una nazione, nel senso bolognese della parola, nel senso bolognese della parola, cioè i limiti delle nazioni. La seconda domanda è, mi sembra, non meno interessante e si collega con la prima, ma non è meno interessante. Cioè l'atteggiamento delle nazioni tra loro. Se e fino a che punto dal modo di rivolgersi anche in maniera impertinente di una nazione verso l'altra si possa seguire lo sviluppo e l'andamento del sentimento nazionale. Forse è una domanda perentoria. Oltretutto rispondere, sarò chiarissimo e spero brevissimo. Le nazioni non sono facilmente coglibili come contenuti. Si tratta evidentemente di associazioni formate spontaneamente e poi istituzionalizzate da parte di persone della stessa lingua. Questo è il punto centrale. Non è l'unico punto. Le nazioni citramontane a Bologna italiane sono quattro. Quelle ultramontane, che fanno l'università degli ultramontani, arrivano a essere 20, o addirittura 30, nella sostanza 20, delle volte giungono fino a 30, ma sono un po'. I castigliani, e questo è chiaro, i catalani, e questo è chiaro, i provenzali, e questo è chiaro, i francesi invece sono divisi, no? Quelli del Pitou, per esempio, quelli di Borgogna. Gli angli sono e poi i germani. I germani sono tutti coloro, si dovrebbe dire, perché dopo, dopo però lo statuto lo definirà, ma molto tardi, coloro che stanno tra Reno e Danubio. Con accessioni sempre dei boemi, che sono degli integrati, dei dominati dalla nazione germanica, e spesso anche i poloni, i polacchi, e spesso anche i gruppi dell'est, scarsamente presenti, c'è uno di Lituania, per esempio, uno slavo di Russia, fa parte della nazione germanica, che dunque si potrebbe anche dire il Sacro Romano Impero nella sua componente più ampia. E diese Frage ist an deshalb gestellt, weil ich habe ihn an deshalb gestellt, weil darin dies eine Rolle gespielt hat, die Abgrenzung vor allen Dingen im zweiten Schismas, in der Geteilung der Jemen. Da hat die Zusammensetzung eine Rolle gespielt, weil ja quer hindurchging, damit so die verschiedenen, also die Haltung zu reinpassen, gehörig sehen. Und deshalb scheint es mir wichtig zu fragen, wie die Nationen zustande gekommen sind für die erste Frage. Sì. Però io direi che la vecchia Europa, una delle vecchie nazioni europee che si porta a Bologna e dopo nelle altre, perché questa è una distinzione che poi si farà, non so in Germania, ma sicuramente nelle altre università italiane, per esempio a Siena, per esempio a Pisa, per esempio a Padova, per citare un altro esempio. Cioè questo fatto diventa poi un modello italiano, questo di modo esatto. Non so, ripeto, per esempio, di che succede in realtà francesi o in quelle tedesche. Sebbene, forse lì non c'è questo fenomeno, non lo so, questo non lo so, questo lo sapete. Se ci siano elementi nazionali di contrasto, ecco, i documenti che abbiamo esprimono due cose. Gli documenti che abbiamo della nazione germanica, perché a Bologna gli unici studiati, perché gli unici conservati a nostra conoscenza sono i documenti della nazione germanica, che si sono conservati moltissimo. Si può dire, anzi questo va detto in un seminario italo-tedesco, sebbene sia noto, ne ha parlato Friedlander, Knoden, è noto, insomma non è che... Noi conosciamo la vecchia università di Bologna, in parte notevole, grazie ai documenti della nazione germanica, che è sicuramente costituita dal 1265 ed è sicuramente funzionante fino al 1796. Abbiamo statuti, altri documenti. Da questi documenti, dunque, mentre per le altre nazioni abbiamo poco e frammentato, da questi documenti risultano due cose, questo abbastanza chiaramente. Primo, lo spirito nazionale, l'orgoglio nazionale germanico, che si esprime in tanti modi. Per esempio, dal privilegio di non giurare fedeltà, i nobiles di Alemania hanno il privilegio di non giurare fedeltà al rector, al loro rettore della nazione ultramontana, loro non giurano fedeltà al rettore. Il fatto che questi nobiles hanno, questo ne ha dato il privilegio, al di là di quello che ho ricordato prima, di portare le armi. Il senso, insomma, di una certa potenza, ricchezza, il principe che viene di Germania con molto seguito, con un gran cavallo, che prende una gran casa, questo è un dato evidente, sia per il Medioevo che per l'età moderna. Per l'età moderna si riduce abbastanza, nel 500 sono ancora moltissimi, e ancora nel 600, poi calma. L'altro elemento, mi parrebbe di cogliere, è il senso della nostalgia, cioè del ricordo della patria lontana. Sono parole un po' così, un po' qualche poco retoriche, però è così. Parrebbe di cogliere, soprattutto così, nei figli, evidentemente, arguisco io, nei figli delle famiglie rimarchevoli, un certo così, gusto del proprio paese, del proprio castello, della propria terra, del proprio dominio, del proprio potere, insomma di quello che si era. Questi due dati, conflitti moltissimi anche tra le nazioni, non so se riducibili però, e ho finito, in termini nazionali o nazionalistici, perché il conflitto fa parte della vita universitaria. Conflitto per la donna, conflitto per la casa, conflitto per il libro, conflitto è pieno, con fatti anche gravissimi talvolta, ma per esempio oltre che i tedeschi, estremamente rissosi sono gli spagnoli. In beiden Bereichen Italiens wirklich eine Initiative gegen das Deutsche festzustellbar. Natürlich in Bezug auf die Einwirkung des Reiches und der kaiserlichen Gewalt. Und dass dies irgendwie ausgewirkt hat, Bologna, das war meine Frage. Non ci sono elementi per rispondere. Non ho questo dato. Ma, però, scusate, non ho mica l'impressione di una particolare ostilità, Non direi, però non direi. Eine andere Frage. Sie stellen das Privilegium an den Anfang der Bologneser Studentenuniversitäten, das Privilegium, das heißt also die Habita Friedrichs des Ersten. Nun steht ja in der Habita nichts von einer eigenen Studentengerichtsbarkeit, sondern die Studenten sollen gerichtet werden von ihren Magistern, also eigentlich eine Regelung, die der späteren üblichen widersprach, wie es ja auch in Paris der Fall war, sodass ich also doch vielleicht in der Form einer Frage Ihrer These die andere entgegenstellen ließe, dass die Universität Bologna nicht auf ein Privileg, sondern auf eine Usurpation, auf eine rechtliche Usurpation zurückgeht und das würde dann die Entstehung der Universität in einen weiteren Zusammenhang stellen, wie ja der Name Universitas schon indiziert. Universitas ist ja gerade im 13. Jahrhundert bei weitem nicht nur die studentische oder überhaupt die Vereinigung von Magistern und Scholaren, sondern überhaupt jede Vereinigung, jedes Collegium Licitum, wie es dann heißt. Und all diese Kollegien sind ja ursprünglich noch, wie zum Beispiel auch die städtischen, die Stadtgemeinden, auf Usurpation zurückgegangen. Auf eine Ursprungsusurpation. Ich erinnere nur daran, dass Birke im vorigen Jahrhundert in seiner großen Arbeit über das germanische Genossenschaftsrecht ja die Entstehung der Universitäten in diesem weiteren Kontext gestellt hat. Und es scheint mir interessant, diese Fragestellung noch einmal an diese Fragestellung noch einmal zu erinnern, nachdem heute Morgen doch vielfach der Anschein entstehen konnte, als ob diese Freiheit der Universitäten etwas historisch Neues gewesen sei. Ist es nicht vielleicht doch ein ganz übliches Phänomen im Rahmen der hochmittelalterlichen Gesellschaft, die Entstehung autonomer Personenverbände, Universitates, die zunächst mal recht usurpieren, es aber dann Kraft Berufung auf das Jus Commune als Collegia Licita tatsächlich exerzieren? Ho capito la prima parte, ma mi dispiace per la seconda parte. Vabbè, sul primo punto mi pare facile rispondere, ma per il modo mi dispiace, professore, vorrei dare una risposta. La seconda parte era quella che le università non universitarie, per dire così, i sodalizi, le associazioni, le società, siano assolte anche autonomamente per usurpazione di libertà. E il dottor Seifert dice come ipotesi, se non fosse possibile, che la libertà universitaria sia una libertà come qualsiasi altra libertà delle tante università comunali e professionali, eccetera, dopo è stata confermata dal diritto comune o anche dalla consuetudine del loro, o anche da privilegi presi dopo la fondazione e lo sviluppo autonomo di tali università. Sì, questo è, grazie, questo è abbastanza centrale. Che le associazioni nascano con usurpazioni. Pensiamo al comune, no? In Italia, no? Che, cioè, voglio dire, chiaro. Ma ci sono i diritti del vescovo, sono i diritti del feudatario, sono i diritti di qualcuno che qualcun altro gestisce e poi amplia molto. L'università. Prima osservazione lei mi ha fatto sull'habitat. L'habitat prevede la giurisdizione, non degli studenti, ma del maestro o del vescovo. Quindi prevede la, io ho semplificato il passaggio, la prevede la giurisdizione sugli allievi fatta dal loro maestro o dall'episcopus, quando siano clerici, evidentemente. Non è dato stabilire il quando, cioè se anche i non clerici possono ricorrere all'episcopus. L'abita non dice queste cose, dice soltanto, quindi è abbastanza sommario su questo punto. Direi che lascia uno spazio di libertà agli studenti nel giocare tra il vescovo e il loro maestro. E lascia ai docenti, ai discenti, un potere maggiore di quanto non ci sia previsto. Non sto a parlare, viste le conseguenze, visto ciò che viene fuori, si deve senz'altro pensare così. Perché che cosa viene fuori rapidamente? Ecco, a Bologna, brevissimamente. A Bologna abbiamo prima l'abita nel 1158, poi poco dopo, quindi i maestri, gli allievi, gli studenti, si devono fare giudicare dal maestro, ben meglio il loro maestro, ovviamente, che il giudice comunale, che oltretutto è durissimo, e poi non si sa in base a quale norma disciplini, non c'è la consuetudine della scrittura orale, non c'è consuetudine scritta, è difficilissimo. Quindi, benissimo. Loro vanno davanti al loro maestro. Il loro maestro, però, si sta impegnando in quegli stessi anni e giura davanti al comune che non trasferirà mai lo studio fuori di Bologna. Cioè, il loro maestro si lega al comune. Quindi, gli allievi, soprattutto gli stranieri, dovrebbero aver avuto l'impressione di non dover più accettare la giurisdizione dei maestri, e estendendo in maniera lassa il contenuto dell'abita, usurpano per loro la giurisdizione. Cioè si considerano loro maestri di se stessi. E in questo senso è abbastanza evidente che rientra esattamente nel discorso che lei fa. Si noti che questi sono studenti di diritto ed è molto difficile passare nell'abita, passare utilizzando il privilegio, passare dalla giurisdizione del maestro alla giurisdizione degli allievi. Io ci ho provato tante volte, ma non riesco a fare il passaggio mentale, non capisco come si fa, perché è difficile. Quindi si dovrebbe dire, semplificando, che è proprio l'esempio di una spontanea germinazione che si appoggia sui documenti che riesce a strappare, ma che poi li utilizza, e quindi è proprio un esempio di usurpazione di poteri negli stessi termini. Per questo ho parlato di un comune degli studenti, così come il comune della città. Sarei proprio di questo parere. Però io forse attenuerei, se mi è lecito, il termine usurpazione. Forse troveremo una parola più esatta se dicessimo mantenimento di una certa presa di coscienza di un diritto, perché ma questi maestri, in base a, ecco, questo è un punto sul quale io credo che dobbiamo un momento riflettere. In realtà, come è stato detto all'inizio, l'università nasce dal fatto che si afferma un principio: ognuno non è più giudicabile secondo il diritto, secondo la personalità del diritto o il diritto della propria stirpe, ma secondo un diritto universale, che è il diritto romano, il diritto giustinianese, diciamo. Ora, nel momento in cui il gruppo degli studenti si riconosce una sua autonomia di giurisdizione, quella del maestro, Perciò stesso non direi tanto, se non inganno, che si tratti di una usurpazione, quanto piuttosto di posizione e chiarificazione di un diritto che è venuto maturando per il fatto stesso che si sono associati ad un maestro e che in questo momento il maestro rappresenta la voce del diritto. E cioè usurpare significa prendere qualcosa a cui non si ha diritto. Invece nel momento in cui io mi associo al maestro, nella, diciamo così, nel patto di associazione, c'è anche quello di essere giudicato da lui. Questo è il valore dell'abita. Sì, però poi c'è il passo che il professor Coliva non riesce a spiegare, il passo dal maestro come giudice al rettore come giudice, cioè allo studente come giudice. E lui dà come spiegazione il fatto che i maestri diventano sempre più cittadini del comune di Bologna, e quindi proprio per... diventano sospetti di giudicare secondo il diritto cittadino e con ciò di contrastare alla Costituzione Abita. Ma e il... per ottenere la libera scelta del giudice, così chiamerei anche un po' imprecisamente il contenuto dell'Abita, per ottenere la libera scelta del giudice si può scegliere anche il rettore, cioè il rappresentante dei co-studenti, sì, ma... come giudice, una cosa della quale nella Abita non c'è che niente. D'accordo, vorrei però, se mi è lecito, porre in rilievo questo: il maestro o il rector devono giudicare tutti e due in base a un unico diritto, che non è il diritto dello statuto, lo statuto bolognese. No, no, vai. Allora, quindi non, la ragione per la quale si passa dal giudizio del maestro al giudizio dei, diciamo così, del rector, credo che vada piuttosto ricercato nell'altra direzione, nella direzione che nella associazione medievale ognuno cerca di essere, diciamo così, giudicato dai suoi pari. Cioè, sì, ma ritorno sempre al principio della, perché al principio della usurpazione. Invece noi abbiamo qui un'evoluzione del, come dire, del diritto di essere giudicati, che non è sempre usurpare. Ecco, io direi che noi abbiamo qui una evoluzione del diritto piuttosto che l'acquisizione di qualche cosa che non mi compete. Non so se sono stato chiaro. Ma tanto noi non sappiamo in base a quale diritto. Io presumo che, sebbene questi fossero studenti di diritto romano, quando applicavano il loro, cioè il loro diritto, applicasse il loro diritto. Ecco, ed è qui il punto in cui a un certo momento ricompare, diciamo così, secondariamente ricompare in parte il principio del diritto. Non si spiega rispetto a Montagne, perché tutti i diritti germanici in un modo o un altro sono abbastanza simili. Quindi quando lei ha l'obbligazione deve farla mediante la rabbia, mediante un bastone, forme così. Invece il diritto romano, per esempio, sono forme scritte. Quindi appunto si passa, cioè, dalla giurisdizione del maestro alla giurisdizione dei propri pari. Dei propri pari, ma questo è appunto, io non vedo però come giustificarlo giuridicamente. Giuridicamente io non so, l'unica interpretazione è arrivata, quindi per essere arrivato al massimo, cioè proprio come dicono appunto, cioè, questa è la tesi di Rossi e di altri, questo è il massimo di applicazione dell'abita, siccome i docenti sono in comune, allora, però lì non c'è scritto. Non c'è scritto, e poi bisognerebbe vedere fino a che punto i docenti... Ma un'altra cosa, ma i docenti sono contrari, perché Assone potrebbe, Ma adesso abbiamo... Guardate che... Möchte versuchen, das auf Deutsch wenigstens kurz wiederzugeben, denn eben ging es etwas schnell und ich nehme an, dass das dann doch den einen oder anderen verborgen geblieben ist. Das von Herrn Seifert angesprochene Problem, nämlich warum und inwiefern es dazu gekommen ist, dass anders als in der Authentica Habita steht, die Gerichtsbarkeit über die Studenten nicht von dem Magister oder von dem Bischof ausgeübt werden soll, sondern übergeht auf den Rektor der Universität, das heißt auf die Universität. Und bei dieser Frage sagt Herr Colliva, und so habe ich es vorhin auch nochmal italienisch zu sagen versucht, es ist eigentlich nur schwer zu erklären und wahrscheinlich nur so zu erklären, dass in einem Zeitpunkt noch des 12. Jahrhunderts die Magister der Universität Bologna so stark mit, als Bürger von Bologna, so stark mit der örtlichen Autorität identifiziert werden, dass die Studenten das Gefühl haben mussten, dies ist nicht mehr die freie Wahl eines Richters, der nach unserem Recht uns richtet, sondern damit geraten wir in die Gerichtsbarkeit des fremden Landes, die die Konstitution Habita ausräumen sollte. Professor Manzelli sagt, er sieht das anders. Es sei ja ohnehin, aber da sind sich dann doch beide einig geworden, das römische Recht, das hier angewendet werde, sodass es also nicht so sehr darauf ankomme, ob die Magister Bologneser Bürger sind oder nicht. Colliva sagt, wir wissen nicht, welches Recht angewandt wurde. Er nimmt an, dass viel eher das jeweilige Partikularrecht angewandt wurde, sodass also ein Ultramontaner nach ultramontanem Recht behandelt zu werden wünschte, ein Italiener nach italienischem oder römischem Recht. Und nur so, meint er, das scheint mir überzeugend, sei die Zweiheit von Universitatis in Bologna zu erklären. Wie ich das vorhin auch schon anzudeuten versuchte, Italiener werden von einem italienischen Rektor, Nicht-Italiener von einem nicht-italienischen Rektor zur Rechenschaft gezogen und die Prozesse entsprechend geführt. Die große Frage, in der Marcelli das Wort von der Usurpation von Rechten und Freiheiten und Autonomie, das Herr Seifert gebraucht und Herr Colliva wieder aufgenommen hat, abschwächen möchte, das wäre die Formel, eine konsequente innere Entwicklung des durch die Authentica Habita gegebenen Privilegs in Anpassung an die Praxis, was dazu geführt habe, dass eben nicht mehr der Bischof, nicht mehr der Professor, sondern nun der Rektor der Universität die Gerichtsbarkeit habe. Hier ist die Frage zwischen beiden, ich würde sagen zwischen vielen offen, aber offene Fragen sind ja eigentlich das Wichtigste, was in einem Seminar vorkommen kann. Und insoweit würde ich meinen, man sollte jetzt weiter fragen, vielleicht kommen wir auf das Problem in einem der nächsten Tage nochmal zurück. Prego. Prego. Volevo soltanto riaccennare al problema dell'umanesimo. Cioè, il professor Colliva appunto ha messo in rilievo l'incompatibilità che inizia nei primi anni del 1400 con l'attacco di Valla e che non sarà mai sanata attraverso anche un'indagine degli stipendi e anche dei testi usati. Per quanto riguarda il 400 penso che la situazione sia universale, cioè nel senso e in tutte le facoltà, cioè anche per quanto riguarda la facoltà di teologia, ma soprattutto delle arti, e in tutte le università europee, cioè il movimento umanista è molto critico nei confronti dell'insegnamento universitario, si pensa a tutte quante le censure nei confronti delle dispute dialettiche, quelle che chiamano le disquisizioni dialettiche, c'è tutta una statistica ben precisa con un linguaggio anche abbastanza colorito. E poi anche quando ci sarà un avvicinamento delle università al fenomeno umanistico, che ormai il umanesimo è quasi terminato, siamo in pieno Rinascimento e l'influenza, e questo mi sembra anche di riallacciarmi al titolo del seminario, l'influenza dell'umanesimo sull'università è molto relativa, cioè sono le nuove traduzioni di Aristotele che entrano, le traduzioni del Trasentunzio, del Girocolo, però nei corsi si mantiene sempre una certa continuità tra tardo Medioevo e pieno Rinascimento. quando stamani mattina parlava il professor Pierre del quando le grandi università del primo medioevo stanno così calando per importanza e le nuove così salgono, però c'è ancora una certa continuità per quanto riguarda i testi e talvolta anche per quanto riguarda i commenti. Nella facoltà delle arti, ad esempio, ci sono i commenti di Alberto di Sassonia, di Marsilio di Inge, di dello Suite. Quindi c'è questa così questa continuità tra medioevo e cultura moderna, almeno per quanto riguarda l'università. E quindi ecco la polemica antiumanistica, devo dire che non è rivolta soltanto ai giuristi, ma è una polemica proprio così totale. E casomai se si deve vedere l'influenza dell'università per quanto riguarda la cultura dell'età moderna, direi che bisogna andare agli inizi del 600, quando i francesi, ad altri, recupereranno la cultura universitaria, soprattutto padovana, del 500. Quindi, qui volevo soltanto... è un tema importante, ma l'università è molto, molto tradizionalista. Cioè, la cultura moderna nasce in parte anche al di fuori dell'università e l'università recepisce soltanto poche istanze. Basta pensare alla figura di Galileo, insomma, e tutto il problema che c'è per la nascita della scienza moderna. Purtroppo non mi intendo di diritto e quindi posso fare soltanto interventi relativi a questo. Però mi sembra che sarebbe interessante vedere, fare proprio un confronto tra i testi usati alla fine del 300 e i testi che venivano commentati e anche i commentatori usati nelle varie facoltà all'inizio del 500, alla fine del 400. Melantone, che è molto amico degli umanisti fiorentini, in fondo stabilisce un corso dove c'è il commento ancora alle opere aristoteliche, mentre l'umanesimo del Rinascimento passa, ad esempio, attraverso la traduzione delle opere di Platone e di Marsilio Ficino, che grazie alla stampa hanno anche una grossa risonanza europea. Reutlin è molto amico di Pico della Mirandola. Ecco, ma come si vede, questa cultura tra 400 e 500 è molto legata all'insegnamento tardo scolastico e come testi e come commenti. Vielleicht sollte ich jetzt ganz kurz zusammenfassen. Die Inkompatibilität, die Unverträglichkeit zwischen der Universitätswissenschaft und dem Humanismus ist im 15. Jahrhundert nicht nur im Bereich der Rechtswissenschaft, sondern auch in allen übrigen Bereichen feststellbar, in der Theologie, bei den Arthes und so weiter. Auch die neuen Aristoteles-Übersetzungen des 15. Jahrhunderts, die an der Universität dann aufgenommen werden, haben im Bereich der philosophischen Studien an der Universität zu keinen wesentlichen Änderungen geführt. Die Kontinuität der Texte an allen Universitäten vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit sei sozusagen ein Gegenstand, der zu dem, was heute früh gesagt wurde, über die Verschiedenheit der alten Universitäten und der neu gegründeten, doch als Gegengewicht anzusehen. Überall werden am Anfang des 16. Jahrhunderts im Grunde genommen die gleichen Texte den Vorlesungen zugrunde gelegt, wie schon am Ende des 13. Jahrhunderts. Die Universitäten sind eben sehr traditionalistisch und nun übertreibe ich etwas, was gesagt wurde, weil es dann schneller geht. Wissenschaftliche Fortschritte werden im Wesentlichen außerhalb der Universitäten erarbeitet und erzielt und dringen in die traditionalistischen Universitäten nur mühsam und kaum ein. Ein letztes Beispiel noch. Während die Universitäten noch zur Zeit des Melanchthon, sich im Wesentlichen auf die Behandlung von Aristoteles Kommentaren stützen, ist seit dem 15. Jahrhundert Plato in den Übersetzungen des Marsilio Ficino und anderer für die Humanisten und diese Wissenschaft viel wichtiger, viel grundlegender als Aristoteles. Und damit hat man eben einen gewissen Unterschied zwischen nunmehr dem, was ich jetzt nennen würde, der Universitätswissenschaft, der Universitätslehre einerseits und der humanistischen Bemühungen um Wissenschaft andererseits. Ich hoffe, ich habe ungefähr inhaltlich die Zusammenhänge gegeben. Come voi vedete, sono stati posti due problemi di estrema importanza. Da una parte, per quello che riguarda l'evoluzione delle nazioni nell'università, e dall'altra parte è stata fatta all'università tardo-medievale, direi, un grosso riprovero, cioè la cultura moderna passa sopra le università. Quindi sentiamo le vostre impressioni, se voi siete d'accordo su questo punto importante. Prego. Il professor Colliva ricordava l'episodio del Valois e della lettera con Leonardo. Io ho avuto occasione di occuparmene recentemente e per dimostrare così la forza dell'impatto, la drammaticità dell'impatto di queste critiche degli analisti nei confronti dei giuristi, vorrei ricordare una lettera di uno studente di arti di Pavia che fu presente alla polemica del Papa. È una lettera molto, molto gustosa anche da conoscere, e che tra l'altro dà una luce abbastanza nuova a questo episodio che fu veramente drammaticissimo, perché il Papa rischiò addirittura la vita. Questo studente, scrivendo a un suo amico, un certo Andrea Castro, uno studente bergamasco, si chiama Francesco Oca, gli racconta come la domenica precedente, siamo alla fine del febbraio del 1433, si tenessero nel Duomo di Pavia le cerimonie di laurea. Dice, a un certo punto sono entrati gli scherani del vescovo, dice, o meglio, del suo vicario, il vescovo di Colpasso era concilio di Pavia, a Pavia lo sostituiva Daniele Pagani, che era vescovo di Bobbio, e a causa di una certa lettera, o meglio invettiva, che riguarda scritto contro Valla, questi hanno l'ordine di arrestare. Il Valla fugge dal Duomo e si rifugia presso un magistrato comunale che l'Oca chiama umanisticamente pretore, quindi poteva essere, non sappiamo chi fosse. Ecco, quindi fu addirittura un episodio di questa violenza, e quindi rimane confermata quella narrazione che fu fatta dal Panormite, che fino adesso si diceva sulla testimonianza del Valla stesso che fosse stata maliziosa, secondo cui il Valla appunto sarebbe fuggito di chiesa, inseguito e rischiando la vita, e Panormite dice, se non c'ero io con la mia spada a salvarlo sarebbe morto. Il Valla invece dice, no, non è vero, dice, anzi ci fu soltanto così una protesta del rettore dei giuristi, e dice, anzi gli artisti che erano miei nemici. Quindi possiamo riallacciarci al discorso di prima, le critiche del Valla andavano anche, si pensi alla dialettica contro gli artisti, contro i filosofi, dice, anche gli artisti invece diventarono favorevoli. Ecco, l'unico che difende il Valla in questa sua posizione, che poi lo porterà nel marzo del 33 a perdere la carta, cioè la Ducale di Filippo Maria Visconti, che lo dichiara decaduto dalla lettura di retorica a Pavia, è un giurista molto interessante, anche se poco noto, perché quello che ci è rimasto, a parte due ripetizioni sempre, sono tra l'altro di tradizione germanica, e questo giurista quando vorrà lascerà i propri beni per costituire un collegio per la nazione germanica di Pavia, ed è Catone Sacco, in cui troviamo degli elementi umanistici notevoli. Ecco, prima si parlava un po' dell'influsso dell'umanesimo in quel periodo. Ecco, in questo cantone lo troviamo. C'è una sua repetitio alla Rex Pereira del Digesto, che è molto strano, perché non è un commento giuridico alla legge, ma è, io credo fosse il primo testo di mnemotecnica umanistica. C'era questo grosso problema di ricordare i passi, no? I manoscritti erano pochi, erano costosi, c'era il problema di ricordare i passi del digesto, siamo ricordi che alcuni turisti dalla memoria favolosa che sapevano citare migliaia di passi a memoria. E c'era il problema di come imparare a ritenere, c'è tutta una tradizione, c'è quel bel libro della Yeats, sulla mnemotecnica. Ebbene, questa repetizio è una lezione molto tecnica su come ricordare questi passi, fatta con quella metodologia nuova rispetto alla mnemotecnica, non so, di San Tommaso, per dire, portata avanti dal umanismo. C'è di più, questo sacco in questi anni, nel 1933-1934, pubblica un trattato, Origines, potremmo chiamare un trattato di filosofia del diritto adesso, se non parlo. Direi quasi, si passa l'espressione previdiano, perché la tesi di fondo è che con il cambiare della storia cambiano le leggi. E questo lo dimostra attraverso tutta una serie di autorità. Ebbene, in questa opera noi vediamo una cosa molto importante per vedere quali erano i legami strettissimi. Ci sono alcuni passi che sono riportati interamente da un'opera del Balla che allora era inedita e che è la dialettica. Adesso che è stata studiata la prima redazione della dialettica da padre Camporeale, questa impressione che già era nata da Borgo, che aveva pubblicato quest'opera del sacco, rimane confermata, nel senso che sono molti di più e esattamente uguali a delle vere e proprie estrapolazioni, d'altra parte scusato, però senza citare la fonte, della dialettica del Balla che evidentemente il sacco aveva letto nella fase della sua redazione prima che fosse pubblicata a fine di notte. Quindi vi rendete conto che questo scontro tra giuristi e umanisti quindi è stato un fatto reale e aggiungiamo non solo reale, ma che mostra l'appoggio che i giuristi avevano dal potere, diciamo così, politico ed ecclesiastico. Quindi è, mi pare, un fatto che dobbiamo tenere ben presente. Vi è quindi non solo un contrasto di cultura, ma mi pare che a questo contrasto di cultura si affianchi anche la presenza del potere politico. Quindi, se mi permette una cosa brevissimamente, ecco, l'unico di questo gruppo umanistico che intorno al Balla si era formato a Pavia è appunto questo sacco a resistere, perché è uno del giro grosso. Il sacco è colui che con un suo consiglio darà legittimazione alla presa del potere dello Sforza dopo la parentesi della Repubblica Ambrosiana. Che però, se non mi sbaglio, lo licenzia dopo questo episodio. Sì, Balla viene licenziato. Dico, l'unico che ha resistito è questo sacco che era legato al giro grosso del potere. Ora, c'era lei che doveva. Ja, ich wollte auch noch einmal das bestärken, was Sie vorher gesagt haben. Es geht in die grundsätzliche Richtung. Ich wollte das, was Sie vormittag auch noch schon gesagt haben, man fragen könnte, wenn man sieht, Universität und Kultur. Es geht um die Relativität der Universität tatsächlich in dieser Zeit. Als mal etwas provozierend zu sagen, weil ein sehr moderner Ausdruck als Trägerin des wissenschaftlichen Fortschritts, das ein moderner Ausdruck, und deshalb ist das Vorsicht zu brauchen. Vielleicht sollte man es tatsächlich etwas relativiert sehen. Man muss natürlich, wenn Sie diesen Einwand bringen, einbeschließen, dass jede Form von Wissenschaft eine mindestens rudimentäre Institutionalisierung braucht. Schon allein aus der Kommunikation heraus. Ich muss also fragen, wenn ganze Bereiche des geistigen Lebens nicht in der Universität zu Hause waren, gab es dann dafür auch Institutionen, die gewissermaßen konkurrieren mit der Universität, aufgetreten sind. Denn Sie haben recht, man könnte es verstärken, ganze wissenschaftliche Bereiche, modern würden wir sie als wissenschaftliche Bereiche kennzeichnen, gibt es in der Universität nicht. zum Beispiel die Staatstheorie ist nicht in der Form in der Universität zu Hause, wie sie außerhalb der Universität, zum Beispiel, um es mal einen zu nennen, Machiavell, gemacht worden ist. Und Machiavell war von der Universität bedeutend. Es gehört nicht dazu, zum Beispiel die Abstrakte, also die Naturwissenschaften, modern gesprochen. Es gehört auch nicht dazu, meines Wissens noch in dieser Zeit, die modern jetzt entstehende Geschichtswissenschaft im Sinne von Historik, die ja im Humanismus aufkommt. Nicht die Geschichtsschreibung, sondern die Historik. Und man kann, glaube ich, tatsächlich feststellen, wenn man das Spätmittelalter sich wandert, dass es neben der Universität auch andere Institutionen gab. Ich denke nur Schlaglichter an den Salutati-Kreis in Florenz. Der ganze erste Phase des Humanismus spielte sich ja nicht verbunden mit der Universität. Petrarca, Boccaccio, Salutati, das ist nicht Universitätsbereich. Es gab natürlich auch im Salutati-Kreis Leute, die auch Universitätsmagister waren, das ist klar. Aber es ist nicht die institutionelle Auseinandergewiesenheit. Wir haben dann zum Beispiel den Bereich auch noch des Monastischen. Die ganze wissenschaftliche Betätigung der Augustiner-Eremiten in Italien zum Beispiel, die auch mit der Universität in Verbindung standen, die aber isoliert von der Universität eine eigene wissenschaftliche, geistige, vor allem theologische Produktion hatten, die sich zum Beispiel in Deutschland auswirkte, im 15. Jahrhundert in der Melker Reform, die natürlich von Wien her beeinflusst war, dann sich aber emanzipiert hatte und dann in Klöstern, zum Beispiel Tegernsee, entfaltet hat und zu einer neuen, mit Hilfe zum Beispiel von Cusano, zu einer neuen theologischen Progression kam. Tegernsee, der eine Bibliothek, weil wir Bibliotheken angesprochen haben, Tegernsee, der eine Bibliothek hatte, die größer war als die Vatikaner, also ich meine rein, auch von der Voraussetzung her war alles da. Man kann weitergehen, die ganze Akademiebewegung, die in Italien früher einsetzt, aber dann in Frankreich natürlich im 16. Jahrhundert da ist, lässt dann doch diese Frage vielleicht am Schluss so formulieren, ob die institutionelle Einbindung, die notwendig ist bei jeder wissenschaftlichen Bewegung, ob diese institutionelle Einbindung in dieser Zeit tatsächlich noch das Monopol der Universitäten war, wie es hier eigentlich in die Wiege gelegt worden ist, wie Sie ausgeführt haben, durch diese Insuffizienz gewissermaßen der Wissenschaftsträger im 11. und 12. Jahrhundert noch als neue Bedürfnisse aufkamen, man neue institutionelle Formen suchte. Und das ist die Frage, wie weit dieses wiederum neue im Spätmittelalter überhaupt von den Universitäten noch in dem Maße getragen werden konnte. Io vorrei, dopo le parole che sono state dette e che ci hanno portato nel pieno di un problema estremamente vivo, mi piace ricordare che non a caso, e qui dobbiamo ringraziare ancora il professoresse che lo accennò a suo tempo, non a caso noi abbiamo parlato di università e cultura. Come voi vedete dalla nostra discussione, il problema, non dico che si sta spostando dall'università alla cultura, ma sta chiarendo come la università, nel rimanere una istituzione che, perdonatemi la parola dei nostri giorni, gestisce la cultura, non è l'unica. E io vorrei, al di là di qualche perplessità su un punto o altro del discorso che è stato fatto, io vorrei ricordare precisamente l'importanza delle accademie e aggiungerei una cosa. Lei ha parlato del problema di Coluccio Salutati e della formazione del umanesimo fiorentino, che è in gran parte una formazione extra-universitaria. Ma noi dobbiamo non dimenticare che proprio nella seconda metà del Trecento noi abbiamo delle formazioni di, come dire, gruppi di cultura che non sono ancora accademici. Non so, noi italiani dovrebbe essere più noto, ma non so quanti dei tedeschi, scusatemi se dico così, conoscano un singolare romanzo che racconta le vicende di una storia, di un'associazione culturale, ed è il Paradiso degli Alberti. Ebbene, nel Paradiso degli Alberti c'è una associazione che non possiamo chiamare universitaria, ma è una preaccademia, una... Non so, Carotti, lei se sia d'accordo sull'importanza di questo romanzo del Paradiso degli Alberti come presenza di una cultura in evoluzione. Noi abbiamo un mondo che si sta evolvendo e si sta trasformando e che non è universitario. Il problema è di chiarire, ma questo credo che sarà chiarito ancora nei prossimi giorni, perché non chiudiamo certo oggi il discorso, il problema sarà chiarire il rapporto, cioè il rapporto è stato sempre antitetico, come compare in questo episodio di Lorenzo Valla, di cui abbiamo sentito, io sono grato di questa testimonianza che non conoscevo e che è estremamente viva, se cioè questo rapporto tra università e cultura non universitaria, ma di livello altissimo, è davvero sempre antitetica o se in fondo questi due mondi sono in qualche modo, come si suol dire, complementari. Haben Sie alles verstanden? Muss ich mich auf Deutsch wiederholen? So, allora. Io volevo ricollegarmi subito a questo per ricordare semplicemente un'opera di Bertano, Studium Italienischen und Deutschen Humanismus. E però è veramente indicativo di come questi rapporti, secondo me, non fossero assolutamente antitetici o complementari, perché nella tradizione di testi umanistici le miscellanee compilate dagli studenti tedeschi hanno un'importanza insostituibile, cioè molte tramandano testi che nella tradizione italiana sono andati perduti. E questi testi sono, queste miscellanee, sono dovute soprattutto a studenti di Padova e di Pavia. Cioè Pavia era un centro in cui perdurava la tradizione medievale, l'arte medievale di Ventura Torres, e Padova era un centro in cui perdurava l'insegnamento del diritto e della mossa di Mosse Britannicus. Cioè erano tutte e due università fortemente tradizionaliste. Però gli studenti di entrambe queste università sentivano la necessità di accostarsi ai testi umanistici con un lavoro filologico. Io ricordo ad esempio che una di queste miscellanee era stata scritta da uno studente tedesco che era ospite di Francesco Zavarella e raccoglieva testi petrarcheschi, testi dell'umanesimo. E questo quindi è il sintomo di una cultura giuridica che rimane una cultura giuridica di una cultura filosofica, Pavia, che è ancora tanto medievale, che però si apre già largamente per tempi politici. E dopo, questo è molto bello. Rimanendo sulla linea del Bertalò, si può dire che il suo continuatore Sottili, anche lui gli studi, soprattutto quello su Pico da Monte, ha dimostrato che c'era questo interesse da parte dei giuristi padovani per l'umanesimo, che ci sono stati gli autori del cosiddetto pianto per Fanzung in Germania dell'umanesimo italiano. Quindi non mi sembra assolutamente, anche se l'università viene superata dalle accademie, l'università resta sempre aperta a questa cultura più vasta dell'extra-universitaria. Untersuchung von Bertalo über die Beziehung zwischen den italienischen und deutschen Humanisten gibt es eine große Zahl von Nachschriften deutscher Studenten, die in Pavia vorwiegend Philosophie, in Padua vorwiegend Jurisprudenz studiert haben und erkennen lassen, wie stark das Interesse dieser Studenten, aber auch ihrer Lehrer in Pavia und Padua, die an sich traditionalistische Lehrer waren, an humanistischen Gedanken und humanistischen Wissenschaftsformen gewesen sind. Und mit Recht weisen sie darauf hin, dass also nicht nur Bertalo, sondern letztendlich auch Sottili in seinem Buch über Piero da Monte gezeigt hat, wie man in Pavia oder vor allen Dingen in Padua war für Humanismus, das ist also jetzt eine kurze Zusammenfassung, ein Gegenbeispiel für das, was bisher über den unüberwindlichen inneren Gegensatz zwischen der traditionellen Universitätswissenschaft und dem Humanismus gedacht worden ist. Es gibt offensichtlich in Pavia und Padua auch Offenheit für Humanismus, die ihren Niederschlag gefunden hat in diesen nach jenseits der Alpen, das heißt nach Deutschland gebrachten Vorlesungsnachschriften deutscher Studenten, ihren Niederschlag gefunden hat. Carotti, allora anch'io poi. Sì, è un problema di tempo. In generale. Perché appunto per quanto riguarda il rapporto umanesimo italiano, umanesimo tedesco, cioè ad esempio qui a Firenze siamo qui, si firma a Pavia. Scrive la vita del Petrarca. Come? Scrive una vita del Petrarca. Sì, appunto, però si ricollega più alle scritti di Pico della Milano, allora nelle sue stanzate, che non alle tradizioni che a Pavia erano molto forti appunto delle calculaciones. Ci sono anche la stampa di Pavia pubblica molte cose di calculazioni. Ecco, nel primo 400 la grossa polemica è proprio contro i calculatores, tanto che anche in Germania c'è che insomma polemizza molto su questo tipo di spiegazione logica, soprattutto appunto dei calcolatori. Che rapporto ci sia stato di continuità? Questo è vero, ma non credo, ecco, che sia proprio con le università della metà del 400. Però vedi anche a Moral Barbaro si forma a Pavia la scuola dei calcolatori, dopo però si oppone. Appunto, cioè, ecco, no, si forma, ma c'è... Non sì, certamente, cioè, però c'è sempre un contrapporto nei confronti dei contenuti delle lezioni, anche se per Moral Barbaro, appunto, anche Pico allora riconosce il valore dell'aristotelismo contro... Certamente, però, ecco, le sue opere non risentono del metodo universitario. Anche se vuol fare un accordo tra Platone e Aristotele, che era partito con Boezio, che è uno dei testi del... Alla disputa ricorre sempre a un... cioè quando lui a Roma vuole disputare i suoi tesi, ricorre cioè, sempre a un testo universitario. Cioè, è la questione universitaria, però i contenuti per favore, sono cabalistici. Più piano, parlate più piano, sì, più lentamente. La struttura, ma il contenuto, per quanto riguarda il contenuto c'è proprio una contrapposizione. Professor Colliva. Io volevo dare, sì, volevo brevemente precisare su questo punto, perché a me pare che su questo punto dell'umanesimo noi storici del diritto siamo qualche poco in difficoltà, come ho detto prima, non è che pretendere, però avanzo una soluzione, una spiegazione di tipo generale. Il dato fondamentale è questo, che in un'età, prima di tutto, è il conflitto tra, che viene fuori anche dai nostri libri, dalle più recenti elaborazioni sul cosiddetto umanesimo giuridico, da un lato il contrasto tra il diritto come viene applicato, così com'è in realtà, cioè dal fatto che i giuristi già applicano il diritto romano, e le critiche sulla sua applicazione, sulla sua lettura, proprio degli umanisti. Questo è un conflitto che ha quasi, è abbastanza complesso. L'altro è un altro dato ancora, il fatto che l'età umanistica, che è di ripresa degli elementi romani, romanistici, sbocca poi in determinati paesi in una crisi del diritto romano applicato. Questi sono gli elementi che non sono sempre facili da riquadrare. E quindi io direi brevemente, anche rispondendo alla signorina, tra giuristi e umanisti c'è un equivoco che sta nel modo in cui i libri vanno letti ed è insanabile, perché al giurista, quando bene gli avete spiegato che Digesto 24:1-12 va letto meglio e va letto anche in senso storico, il giurista non se ne fa nulla, perché con 24 o 12 c'è l'obbligazione e lui deve sapere come risolvere l'obbligazione. Questo è il primo caso. L'altro elemento è appunto quello poi dell'eventuale crisi, no, del diritto romano che ne segue. Pertanto, io trovo che a livello umanistico è difficile che gli umanisti e i giuristi si intendano. Poi i giuristi, e qui possiamo, per esempio, c'è una figura che abbiamo studiato molto bene recentemente col Caprioli, in maniera molto significativa, non devo altro, il Bolognini. Col Bolognini ecco che il giurista pratico comincia a diventare anche un po' umanista, ma solo per quanto riguarda la forma, non per quanto riguarda la sostanza. Perché la critica umanistica non ha delle proposte concrete, sarà più moderna, sarà quello che... ma non ha delle... cioè, con cosa sostituiamo il diritto romano? Si tratterà di leggerlo meglio. Ed ecco, questa è la strada di Alciato, e questa è la strada di Bolognini, e questa è la strada di una parte dei giuristi, non della massa, perché ovviamente, ripeto, il Tavellio o il giudice, poi basta che sappia come deve applicare, di gesto 24. Questo è. Quindi a me pare questo dato. E mi pare, ecco, ora a Bologna però questo dato è un po' evidente, perché ci sono delle personalità umanistiche anche nelle università. Non so, Beroaldo, Urceo, io non so, io mi rileggo, mi faccio la lettura per l'amor di Dio, cioè sono indicazioni di seconda mano che io do. Però ci sono degli umanisti sulla cattedra. Non ci sono degli umanisti sulla cattedra giuridica. E non ci saranno neanche in futuro, se non dei giuristi ammodernati che utilizzano anche la struttura umanistica. Da questo lato direi che proprio c'è una differenza di fondo che resta. Volevo accennare un'altra cosa, un po' al di fuori, che tuttavia il movimento umanistico in fuori d'Italia comporterà via via l'attacco al diritto romano, perché la storicizzazione del diritto romano, questo è ovvio, prendiamo gli studi di Piano Mortari, e la sua sostituzione col diritto popolare. Questa è una tendenza in Francia e anche in Germania, contraddittoria con un altro fatto poi che pure c'è, è abbastanza significativo, cioè che per altro verso poi invece il diritto, proprio in questo periodo, con l'appoggio delle scienze umanistiche, di più si diffonde. Questo è la dialettica di fondo, questo è un dato. Dall'altro lato, dico, la crisi del diritto romano, più in generale, questo è un discorso tecnico che però nasce da questo lato, è la scomposizione del corpus iuris e quindi l'esigenza del nuovo codice. Cioè, in sostanza, il nuovo codice comincia a nascere l'antitribunianesimo, quando si dice che Giustiniano ha fatto male il suo codice. Da quel momento lì c'è il problema del nuovo codice, ma questo è un problema tipicamente storico-giuridico, che qui non c'entra direttamente, ma che si insiste però nella tematica dell'umanesimo giuridico, dell'umanesimo anche giuridico, cioè dell'influsso sul diritto dell'umanesimo. Questo per dire, quindi, da questo lato direi, e concludo veramente, scusi, gli influssi che ci sono, le letture che i giuristi fanno, la progressiva umanistizzazione dei giuristi, non è tale tuttavia da farli diventare umanisti, perché non possono sostituire l'oggetto del loro discorso, non possono, e non possono in fondo modificare oltre un certo limite la loro stessa metodologia. Questa parte non mi è venuta spontanea, proprio mi è venuta naturale nel corso della mia esposizione, preparata in questo senso, proprio perché il complesso dell'atteggiamento delle naziones si spiega anche alla luce di questi elementi tradizionali permanenti. Non sto parlando chiaro. Forse vorrei. Die Kritik der Humanisten in einer Hinsicht an der Rechtswissenschaft immer geblieben ist und mit zur Krise des Römischen Reichs beigetragen hat, nämlich die Kritik an der Lektüre des Textes. der Inhalt oder der Gegenstand der Rechtswissenschaft, das heißt des auf die Gegenwartsbedürfnisse angewandten römischen Rechts, mit den möglichen Änderungen angewandten römischen Rechts. Dieser Gegenstand war nicht im Sinne des Humanismus, das heißt im Sinne des Rückgriffs auf möglichst genaues und richtiges Verständnis der justinianischen Texte zu lösen. Im Grunde genommen erst durch Einführung neuer Kodizes, die aber alle also sehr viel später sind als der Gegenstand, den wir hier behandeln. An einem Beispiel, nämlich dem Buch von Caprioli über den Bologneser Juristen Bolognini, hat der Oliver uns zeigen wollen, wie der Professor Bolognini in der Form seines Schreibens und seines Lehrens sich humanistischen Formen angenähert hat, wie aber der Inhalt dabei völlig unverändert geblieben sei. Und er hat gesagt, auch andere Humanisten oder Anpassungen an den Humanismus auf den Universitäten seien vorgekommen. Humanisten auf juristischen Lehrstühlen habe er nicht gefunden, auf nicht juristischen Lehrstühlen allerdings doch, das geht dann ein bisschen gegen die Meinung von vorhin. Er sagt aber bei der Rechtspraxis, das Recht wird vor allen Dingen von Tabellionen, das heißt Notaren und von Richtern angewendet, bleibt es beim Alten, die sind nicht Humanisten und werden es auch. Insbesondere sei, das hat er zum Schluss gesagt, das gemeinsame Eindringen von humanistischen Gedanken und römischem Recht in die Länder nördlich der Alpen ein Grund zu der ewigen sozusagen Krise des römischen Rechts, des Widerstandes gegen das römische Recht in diesen Ländern gewesen, Frankreich ebenso wie in Deutschland, und habe eben dort schließlich zu anderen Rechtsbüchern geführt. Ich habe das jetzt sehr verkürzt und hoffe, es nicht zu sehr A proposito appunto di questo rapporto difficile, rapporto scontro tra università e nascenti accademici, facendomi proprio l'intervento del professor Mazzelli, dopo anche cronologicamente parlando, il paradiso degli alberghi, che poi ha una connotazione politica anche molto particolare, molto precisa, per gli sviluppi così e le sventure della famiglia Alberti, che si è scontrata con la oligarchia dominante fiorentina del tempo, c'è da osservare forse una cosa altrettanto interessante, nata proprio in quest'anno. L'interesse della quale è nato proprio quest'anno sulla scia dell'anno brunelleschiano, che qualche volta anche le celebrazioni centenarie servono a qualcosa, cioè proprio lo scontro, se si vuole, perlomeno il rapporto dialettico molto più serrato e violento di quanto si fosse fino a ieri creduto, tra il nascente studio fiorentino, il primo secondo quarto del 400, che era politicamente parlando un pochino una roccaforte, o si avviava ad essere una roccaforte della oligarchia fiorentina, che poi avrebbe perduto la sua partita, e invece il circolo di Santa Maria degli Angeli, importante anche come cucina geografica, molto interessante, santi di cui si scrive la vita sottolineando la loro origine subalterna, Beato Silvestro, Scartassiere, eccetera eccetera, dove si fa proprio un tipo, mentre si fa un tipo di discorso abbastanza larvatamente ma chiaramente fino a Mediceo, nello stesso tempo si svolge un programma di letture molto interessante, perché è diretto, direi, a un intervento immediato nel mutamento politico. Si legge per esempio la Ciclopedia di Senoponte, insomma, cioè si delinea già un'immagine di un nuovo tipo di capo politico, ed è questo interessante perché mentre il circolo di Santa Maria degli Angeli poi sarà molto legato agli eventi particolari anche di quel convento eccetera eccetera, e non avrà in fondo un futuro, però nemmeno lo studio ce n'avrà uno, si direbbe che i medici non l'hanno mai gradito, e il Gran Duca come Duca di Firenze ha sempre favorito Pisa, come Duca di Siena appunto, e lo studio è stato fatto cadere, quindi come c'è sempre questa scelta politica. Il prima che metto due, vorrei dire due parole. L'osservazione che faceva ora il professor Cardini tende a ancor più storicizzare il fenomeno che abbiamo detto pre-accademico, che è il paradiso degli alberti, e a storicizzarlo sul piano di quella che è la spaccatura che si sta verificando all'interno dell'oligarchia che ha tenuto Firenze in pugno nel 300. Una spaccatura che si sta articolando in medicea e antimedicea. Una cultura, una spaccatura che si collega con una università di cui si parla sempre assai poco, ma che pur tuttavia è esistita, la vita un po' umbratile, se è permesso di dir così, dello studio fiorentino, che è antitetico a questo paradiso degli alberti. Nello studio ci sarebbe una tendenza filomedicea, nella paradiso degli alberti una tendenza, diciamo così, antimedicea. E questo il complicarsi della cultura in Firenze anche con elementi politici. Si potrebbe poi aggiungere che a tutto questo si complica anche la tendenza di filo agostiniana di questo mondo del paradiso degli alberti. Come voi vedete, la cultura del tardo medioevo, almeno come si profila in una città come Firenze, è estremamente complessa ed estremamente varia, ma è interessante, ed è per questo che ho voluto sottolineare un punto del professor Cardini, è interessante che comunque è implicata ancora una volta un apparato preciso universitario. C'è bisogno che traduciamo? Altre osservazioni? O siete stanchi? Allora, vogliamo, perché vedo che sono quasi le 6, vogliamo chiudere la nostra giornata? Allora, io vi direi solo questo, se mi permettete 3 minuti, prima che domani ceda la presidenza al professor Elze. Noi abbiamo impostato questa mattina il problema della università nell'ambito di una realtà che è rimasta nei suoi termini un po' più generali, rapporto tra storia e università, tra mondo della vita cittadina e l'università. Questo rapporto che noi stamattina abbiamo accennato nelle linee le più generali, questa sera si è concretata questa linea di ricerca in una università, Bologna, che ci è stata illustrata con la competenza che voi avete sentito del professor Colliva, il quale deve essere, credo a nome di tutti, ringraziato perché, e questo è fatto veramente importante, nel parlarci di una università ha avuto il grande merito, mi sia permesso dirlo, di porci i problemi in maniera tale che noi siamo potuti passare dai problemi della nazione ai problemi connessi con i fatti delle nazioni e poi con i problemi culturali impliciti. Noi abbiamo sentito a un certo momento, noi siamo passati da un fatto strettamente fiorentino come il paradiso degli alberti o Coluccio Salutati o le accademie fiorentine, siamo passati allo studente o agli studenti che a Pavia, oso dire, sentivano a un bel momento il fascino di questo mondo umanistico e nello stesso tempo il valore e il significato di questo mondo giuridico e di questo mondo universitario del diritto. Questo segna, e mi pare che sia una conclusione su cui questa sera possiamo un po' riflettere tutti, questo segna il valore di questi secoli dell'ultimo Medioevo, i problemi vivi di questa Europa che sta abbandonando le grandi certezze, le grandi linee delle summe o delle grandi composizioni giuridiche, ma che nello stesso tempo articola, seconda, trasforma la sua propria cultura. Questa Europa che alla fine del Medioevo è sì quella che conclude il mondo medievale, ma è nello stesso tempo quella che apre i problemi dell'età moderna. Noi abbiamo sentito dal collega che attraverso la meditazione umanistica si rinnova al di là e al di sopra, o se vogliamo anche accanto alle università, si rinnova la filologia, si rinnova la storiografia, si rinnova il pensiero politico. Ma tutto questo è possibile, non dimentichiamolo, perché c'è stato tutto un travaglio di cultura, questo va detto, che è stato quello delle università, quello delle scuole delle arti, delle scuole di diritto, delle scuole di filosofia e di teologia. In questo senso l'università ci si è rivelata dunque un mondo dal quale e al quale la cultura affluisce e che la rinnova e la feconda. Domani avremo la lezione del dottor Dina che ci porterà ancora al momento, per così dire, iniziale o ai momenti di inizio dell'università e al rapporto tra l'università, diremo noi, e i poteri religiosi, ma non anticipo quello che sentiremo domani e che ci auguriamo possa portare discussioni non meno interessanti e vivaci di oggi. E allora questa sera grazie a voi tutti, grazie di essere intervenuti, continuiamo domani mattina alle 9. L'autobus per scendere è alle 6, punto davanti al cancello della villa, e conduce in città. Thank you.